W Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino, eccezionalmente questa serata di lunedì 8 agosto 2011, eccezionalmente dicevo perché sarà una serata veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista, prima di tutto per la musica che sentirete, poi per i grandi ospiti che abbiamo in studio e poi appunto per questa eccezione che facciamo questo puntatone, chiamiamolo così, di circa 3 ore all'insegna della musica rock. Questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante, vi ricordo le nostre frequenze in modulazione frequenze che sono 94.600 e 88.700 MHz. I nostri numeri telefonici in questa sera vi voglio anche presenti con gli SMS. Allora, per quanto riguarda il nostro numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per i vostri SMS, per chiedere consigli, dare quello che volete, insomma informazioni necessarie possibili, se ne avete qualcuno in più di quello che sentirete stasera, ma sarà un po' difficile perché sono mostri sacri del rock, allora il nostro numero telefonico per gli SMS è il 346 23 20 033. Abbiamo il nostro sito www.bluradioveneto.it, dove potete ascoltarci anche in streaming audio e anche, perché no, vedere anche gli ospiti di questa sera con le webcam, che basta sintonizzarsi sulla recensione della nostra emittente su questo evento e cliccando lì potete vedere direttamente gli ospiti. Innanzitutto buonasera Maurizio. Buonasera Agostino, stasera facciamo Rockaway alle 21, mi pare giusto. Infatti. È agosto, the show must go on, lo spettacolo deve continuare e facciamo tutto diverso, mi pare giusto. Anche il jingle diverso. Sì, abbiamo il jingle diverso. Di 90 minuti. Allora, diamo il benvenuto a Gianluca Merlì, un collega di RCS, una radio della provincia di Verona. Ciao Agostino, ciao Maurizio. Ciao Gianluca. E benvenuto, che è un carissimo amico tra l'altro Gianluca, che già abbiamo avuto l'anno scorso. E poi abbiamo l'onore di avere anche un grande giornalista della rivista Mucchio Selvaggio, si chiama Gianni Della Ciotta. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera ciao. Gianni. Benvenuti. Grazie. A tutti e due. Siamo felicissimi di avervi qui e siamo onorati. Piacere nostro. Ecco. Quando Gianluca mi ha detto una cosa un po' di tempo fa, è un programma che... Quanti mesi che ci andiamo dietro Gianluca? Saranno 2 mesi buoni. Sì. Sì, all'incirca. Sì. Ci sarà un giornalista del Mucchio Selvaggio. Benissimo detto, lo compro dal numero 1, quindi dal 1976. Bravo. Sono molto onorato di questo, Gianni. Certo. No, beh, insomma, innanzitutto il giornale di per sé è un giornale che veramente fidelizza. Cioè, mi capita spesso di conoscere delle persone, anche musicisti, famosi, meno famosi, underground, che dicono: ah, sono un lettore storico. Nel momento in cui l'ho conosciuto, non tutti... ovviamente anche anagraficamente sono potuti entrare in corsa sul numero uno, magari l'hanno conosciuto dopo. Io sì, che sono un po' più vecchio di voi, ecco. C'è un motivo allora anagrafico. Sì, esattamente. E comunque è difficile poi che ci si stacchi. È un giornale che comunque ci si affeziona, si conosce, offre tante prospettive, non solo musicali. Secondo me la forza del Mucchio Selvaggio, nel quale io, voglio essere chiaro, insomma, ho un ruolo marginale, però sono molto orgoglioso di poter dire di far parte anche nel piccolo di questa famiglia, perché per me è una rivista veramente importante, anche i collaboratori sono veramente firme di prima fascia, e appunto quello è un giornale nel momento in cui ci si imbatte difficilmente si abbandona. Certamente. L'idea del programma io e Gianluca abbiamo avuto perché deve essere un programma a briglia sciolte, vero Gianluca? Sì, a briglia sciolte. Toccheremo degli argomenti musicali, sempre, ma non soltanto, non prettamente i gruppi musicali, l'ambiente, la contaminazione. Tantissime Gianni. Cose, dalle influenze musicali fino ad alcuni dischi, ad alcune soprattutto band di culto che spesso o si nominano o non si nominano, ma comunque si conoscono marginalmente. Cioè, poi il fan accanito ovviamente le conosce. Io per esempio dei Lush conoscevo la copertina, bellissima, da fuori, mi ricordavo quella. Ma io li ho scoperti onestamente un po' più tardi, perché in questi periodi qua mi sono comperato il librino della giunta editore di Aurelio Pasini, dedicato al Brit Rock, collaboratore del Mucchio Selvaggio. Esatto, un grande collaboratore del Mucchio, poi del Mucchio ho scoperto Extra, di essere amico di Gianni. Esatto. E niente, mi stavo riguardando un pochino la scena shoegaze dell'indie rock britannico dei primi anni 90. Allora, io mi ricordo da ragazzo, ero adolescente, si parlava spesso della scena alternativa americana, quindi tutto il grunge di Seattle, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Melvins, L7 e tutti quelli che ne vanno dietro, no? Mi ricordo si parlava tanto, e questa è una cosa che ho visto per televisione, parlavano veramente, sì, dei gruppi americani, poi dicevano: e gli inglesi? ma gli inglesi cosa stanno facendo? Ma sì, qualche gruppo, però è debole. Adesso, a distanza di anni, scopriamo dei gruppi inglesi che sono stati non solo influenza musicale anche per i gruppi americani, gli stessi Nirvana, lo stesso Kurt Cobain ha citato dei gruppi inglesi dell'epoca, e tra l'altro nell'Unplugged di New York ha fatto la cover di Jesus Don't Want Me for a Sunbeam dei Vaselines, che era un duo musicale inglese che a lui piaceva talmente tanto che al concerto di Reading li ha portati, almeno il gruppo nato dalle ceneri dei Vaselines, li ha fatti suonare prima di Nirvana. Certo, tutte le sue selezioni che ha fatto. Questo per dire che loro, pur essendo grandi musicisti, grandi, hanno avuto comunque delle influenze musicali che non provenivano sempre dall'America, ma che provenivano anche dall'Inghilterra. E ora ho scelto i Lush perché? Perché tra i gruppi shoegaze possiamo citare i Ride, possiamo citare i My Bloody Valentine. Anche i Ride potevi citare, sì, perché è un bel gruppo i Ride. Sì, diciamo che sono più legati. Sì, un po' più chitarristici. Sì, più chitarristici. Un po' più 60s. Ma notevoli. I Lush perché? Per vari motivi. Innanzitutto per questo connubio tra melodia e potenza delle chitarre. Perché se gli americani mettevano potenza delle chitarre, testi abbastanza pesanti, cioè pesanti nel senso arrabbiosi, punk, e sono, diciamo, nel canto mettevano molta di quella rabbia punk, gli inglesi invece avevano questo doppio controsenso tra i muri di chitarra, o comunque queste chitarre, io le chiamo soniche, con la melodia. E poi hai scelto anche un po' di gossip, erano due chitarriste, quindi sì, non è mica male come discorso. Sì, beh, Mickey Barron era mezza giapponese, mezza ungherese. Due ragazze, insomma, fondare una band con due ragazze non è una cosa semplice, sì. Neanche all'epoca, nel 1988. Sì, quindi. Sì, infatti, il fatto anche comunque dell'intreccio vocale tra le due voci femminili, un suono che richiamava i Cocteau Twins, di cui il produttore quelli. È stato Robin Guthrie, il tastierista e chitarrista dei Cocteau Twins. Parliamo un momento, visto che ci sei anche te Gianni, sì, del momento 4AD, che importanza ha avuto la 4AD in quel momento? Fondamentale, innanzitutto ha aperto nuove prospettive, proprio a livello di armonie, di arrangiamenti, e secondo me è stato un completamento di quello che era il percorso iniziato col post-punk, che aveva questi suoni un po' cupi, e aveva dato una grossa risonanza alla riscoperta della melodia, perché secondo me diciamo il punk o comunque anche proprio il primo post-punk in qualche modo aveva sempre questo atteggiamento dove le parti vocali erano, se noi andiamo a vedere anche Siouxsie, certo, e i Bauhaus, che poi ci saremo, vero? Esatto, arriveremo. Gianluca, poi arriveranno. Io devo dire la verità, non ho non hai visto la scaletta? No, di l'ho vista solo una volta, non lo ricordavo. Velocemente. Ecco, sembrava che ci siamo messi d'accordo, ma vi assicuro. Ma ha un che senso no. Comunque la mia scaletta, certo, perché è stata, ma non è così, molto inglese. E quindi, secondo me, è stato fondamentale. Questa è la dimostrazione di come, anche da una singola persona, perché poi in qualche modo la 4D nasce in questo modo, no? Certo. È un'idea, una convinzione che ci siano altre modalità con cui esprimersi, no? La cosa bella è che in quel momento la critica musicale, non solo inglese, così, non solo europea, ha colto immediatamente l'importanza di questo nuovo modo di proporsi, che non sempre accade questo, perché alcune volte, ma la cosa ancora, a mio avviso, più significativa è stato che è stata immediatamente recepita dal pubblico. Di solito è la critica che è un passo avanti e deve in qualche modo convincere, dire credeteci, fidatevi, qui c'è qualche cosa di buono. Invece è stato un suono importantissimo. Ma se pensiamo, tu l'hai detto all'inizio, talmente in modo naturale, tu hai parlato il suono 4D. Sì, l'hai detto in un modo come sì, se fosse una cosa normale. L'etichetta è diventata proprio una caratteristica. Se ci pensi, è una cosa fantastica, certo, questa. Certo. Vuol dire che intorno a un'idea si è creato uno stile. Gianluca, anche la grafica, anche i dischi erano, certo, fatti, sì, certo, infatti erano gli LP, particolari. Una volta si usavano gli LP, cioè non ci sono, sì, ancora, certo. Una volta c'erano gli LP, e la bellezza di prendere un LP della 4AD era tutta un'altra anche cosa. Questo. Mm-hmm. Anche quello era un modo nuovo comunque, perché le copertine avevano un'immagine innovativa. Ok Gianluca, presentiamo il pezzo. Allora, il pezzo che si chiama Light from the Dead Star è tratto da Split del 94. Potevo scegliere un altro disco dei Lush, uno più famoso, sì, però ho scelto un disco che è di transizione tra lo shoegaze, quindi un suono più alternativo, e un suono power pop che sarà poi nell'ultimo disco Love Life, purtroppo ultimo, perché Chris, sì, Eklund, il batterista, si è suicidato, certo, in quel 96. La band, ahimè, nel 97 ha chiuso i battenti, e oggi fatalità, Mickey Barron, ne parlavamo, è giornalista anche lei e ha proseguito una carriera diversa, mentre Emma Anderson oggi è talent scout, mi sembra, faccio, sì, fa la manager in giro per la Gran Bretagna, esatto. Quindi direi un pezzo diverso, non ci sono tantissimi muri di chitarra, però un pezzo veramente emozionale che ti fa capire quanto l'influenza, che questi, tanti gruppi indie oggi non lo sanno, ma quanta influenza questa canzone ha nei gruppi indie di oggi, e probabilmente tanti gruppi non lo sapranno, ma ascoltandola adesso la sentiremo e vedrete che quanto è ancora attualissimo questo pezzo, Light from the Dead Star. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Gianluca, posso dire una cosa? Era una vita che non sentivo il lash. Una vita, assolutamente una vita. E forse non è mica bene, dovrebbero essere riascoltati come sì, tu hai detto. Sicuramente, anche perché nel 92 questa band ha fatto Lollapalooza. Certo. Gianni, tocca a te adesso, facciamo questo rimbalzo. Mi ha detto una parola magica. Lollapalooza. Ma... Anzitutto adoro Perry Farrell e tutti i suoi quello che ha costruito con i Jensen, suoi adepti, è una cosa miracolosa. Sono dischi che magari un prossimo programma è un gruppo che non ci sa mai. Abbiamo sempre qualche possibilità, No, perché sono attualissimi, certo. La cosa bella di Lollapalooza è che il batterista Chris Eklund di quella edizione ha tenuto un diario che poi è andato scritto in un libro di Mark Patres, e praticamente ogni tappa che era scritta su questo diario c'era un musicista che si rompeva un arto. Ah, perfetto. La cosa stupenda dei Lush è che Mickey Berni, durante uno dei suoi concerti, ha fatto, e all'epoca si faceva tantissimo tra i musicisti, oggi un po' meno, lo stage diving. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, si buttava, il musicista si buttava tra il pubblico, no? Il pubblico lo teneva, come dire, su per le mani, e questo qua veniva trasportato, no, dall'onda. Mm. Il pubblico americano, mentre Mickey Berni si buttò, non l'ha beccata, non l'ha presa, e lei è caduta per terra. È stata immobilizzata dal collarino, ricordava il batterista, è stata portata in ospedale, per fortuna, senza conseguenze, ma è stata una cosa, non so, parlavano, non so, del batterista dei Ministri che si è rotto la gamba, certo, di Mike Stonegosser di Pearl Jam che si è rotto un braccio perché giocava, cioè cose pazzesche tra musicisti, gente che entrava nei loro bagni, ma robe veramente folli. Era veramente quello spirito molto alternativo, molto libertino che si respirava all'epoca, questi musicisti che tipo ad esempio come è successo a Reading in Nirvana, alla fine del concerto prendono gli strumenti, li buttano contro gli amplificatori, li buttano. Ma questa era una cosa che facevo qualcun altro prima, sì, di certamente molto, molto prima, molto però, prima. Però c'era veramente questa sì, voglia di autodistruzione quasi di quei musicisti, era certo. spaventosa per l'epoca, e molti di noi ragazzi rimanevano influenzati da quella foga punk che avevano questi gruppi alternativi. Ok Gianni, ora passiamo, abbiamo parlato di foga punk, il primo pezzo della scaletta che tu hai scelto stasera. Ma io innanzitutto ho dato in qualche modo un ordine cronologico. Esattamente. Ho preferito fare così, perché quello magari lo dico dopo il perché di questo, intanto magari presentiamo il primo pezzo. Io ho scelto un brano di Todd Rundgren. Ah, parliamo un momento di questo straordinario musicista. Io lo ricordo con una straordinaria, scusate la ripetizione, produzione dei Ecstasy, non molto amata dalla band, però è un disco meraviglioso. Skylarking era. Certo. Era. Sì, ma infatti questa è la dimostrazione che anche dei nomi così importanti, per qualche strana ragione, vengono relegati ai margini. Mm. Dopo, chiaramente, chi in qualche modo è un pochino o tanto addetto ai lavori sa di chi stiamo parlando. La cosa triste è che qui abbiamo un artista che da solo avrà fatto una ventina di dischi, produzioni di altissimo livello, ha preso in mano gruppi e li ha trasformati letteralmente, ha dato secondo me i binari direttivi di quello che poi in qualche modo è diventato il power pop. Sì, è vero, americano. Hai ragione. Cioè lui è un artista, ma lo vedremo col pezzo che ho scelto, che è I Saw the Light, che è tratto da quel capolavoro che è Something Anything, che in due minuti e mezzo c'è tutto, e la cura dei suoni. Se voi pensate che quello che doveva essere un gruppo parallelo, quasi una piccola valvola di sfogo, Utopia, sì, cioè, ha fatto delle cose fantastiche, e lui lo considerava un gruppo dove ma riesco ad avere uno spazio per essere un pochino più rock, e sembrava quasi passeggero, no? E in realtà poi ha fatto delle cose fantastiche anche con loro. Se voi pensate che nel momento in cui i Cars si sono riformati, hanno pensato lui come chitarrista e cantante, adesso è ritornata alla formazione originale, per dire insomma che è un artista veramente grande. E quello che mi dispiace è che un nome di questa caratura, che ancora adesso comunque produce dischi di buon livello, no, non voglio usare la parola dignitosi, dico di buon livello, dove comunque su 11-12 brani almeno 4 mantengono l'ispirazione degli anni migliori, e sia quasi sconosciuto. È relegato ai margini. Cosa esatto. Dici Gianluca? È più noto per un discorso di cronaca rosa. Sì, questo è vero. Questo è vero. Il gossip fa bene alla salute qualche volta, ma non nel suo caso, però, di determinate cose. Insomma. Beh, no, sì, perché ad esempio io ho saputo che ad esempio la moglie di Todd Rundgren, o comunque la compagna di Todd Rundgren, che era l'ex di Steven Tyler, esatto, sì. Liv Tyler ha scoperto che Todd Rundgren non era suo padre, ma in realtà era Steven esatto, Tyler. Esatto. Peraltro mi è venuto in mente Todd Rundgren, lui ha cominciato negli anni 60 con un gruppo Inez. Sì, Inez, lui ha fatto cose fantastiche, psichedeliche, sì, sono anche dei filmati stupendi, sì, lui, come no. Cappellino caschetto, ma aveva la sensibilità di produrre le cose in una determinata maniera, forse unica secondo certo, me. Certo, sì, no, ma poi lui diceva che la sua forza è togliere, capito? Cioè lui diceva, ok, un pezzo bello, se togliamo una chitarra sta meglio, cioè non serviva tanto aggiungere, anche se poi ha avuto un periodo in cui era un pochino più pomposo, ma lo richiedeva anche il mercato, no? A metà anni 70 c'è stato un momento dove gli archi sono diventati importanti, l'avvento un po' dei sintetizzatori che suonavano al posto degli strumenti aveva dato la sensazione che si potesse arricchire tutto immediatamente, quindi diciamo un pochino magari è caduto anche lui nel tranello, però la differenza è che aveva un gusto, ha dato tuttora un gusto straordinario, quindi non ha mai dato la sensazione di giocare di eccesso, ecco, anche in situazioni così. Benissimo, ok. Ecco. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Si parlavamo qui mentre i microfoni erano spenti, questa aria, questo alone di Phil Spector. Era Phil Spector, non dico dipendente per carità, ma aleggiava, bello, bello, bellissimo. Non c'è dubbio. Comunque bisogna anche sapere dove andare a trovarsi le influenze, no? Certo. Bisogna saper scegliere anche quelle, secondo me. E poi in quel momento Phil Spector era un personaggio comunque dominante. La cosa bella è che, come tanti, ha avuto un momento in cui non gli è stato riconosciuto, poi però il tempo ha messo le cose a posto. Come no, alla grande. Gianluca, cosa mi dici? La prossima scelta? La prossima scelta, dai. Allarghiamo il raggio, non passiamo a un'altra cosa, però c'è sempre un collegamento. Sì, esatto. Le prime scelte saranno dedicate al rock inglese più che altro perché, secondo me, almeno così dovrebbe essere, l'Inghilterra ha sempre messo qualcosa in più. Ha sperimentato, ha usato un po' di più rispetto agli Stati Uniti, che invece hanno sempre comunque il loro bagaglio classico tradizionale, non che non l'abbiano gli inglesi a livello di folk, però gli inglesi sono sempre stati con un occhio attento agli Stati Uniti, ma propongono le loro cose con la loro visione musicale. E in questo senso la mia scelta è Charlatans, deriva dal fatto che io li seguo più o meno dal 94-95, è un nome che sento da parecchi anni. Poi perché loro, nel momento in cui è arrivato il Britrock, quindi Oasis, Blur, così, hanno mantenuto innanzitutto una loro identità. e soprattutto sono figli di un genere musicale che è il baggy sound, che è iniziato nei primi anni 90 e che questo è stato citato dai giornalisti quando è esploso il Brit Rock, quindi tutto quel periodo degli Stone Roses, degli Happy Mondays, ovviamente i Charlatans, gli Inspiral Carpets, tutti quei gruppi che si rifacevano agli anni 60, soprattutto nel look e nella moda, però avevano qualcosa di nuovo, ovvero una musica più ballabile, qualche effetto, tastiere così. I Charlatans, tra questi gruppi, quindi Stone Roses, Happy Mondays, sono stati quelli che innanzitutto sono sopravvissuti. Sì, perché ormai esatto. Sono rimasti solo loro. Sì, vero. Stone Roses dovevano unirsi, non si capisce sì, bene. Esattamente. Happy Mondays si sono riuniti, poi è diventato Black Grape, anche lì Shawn Ryder non si capisce. Loro invece mi piacciono ancora oggi, anzi li ascolto molto volentieri, perché innanzitutto sono una famiglia. Loro sono ancora insieme nonostante le loro vicissitudini, è morto il tastierista proprio in quell'anno. Adesso recentemente la notizia è che John Brooks, il batterista, durante un concerto in America si è sentito male, è stato ricoverato in ospedale e gli hanno riscontrato un tumore al cervello. Adesso vediamo lì, ho letto qualcosa sulla sua pagina Facebook, comunque lui, se dovessero, facciamo gli scongiuri, perderlo. Sarebbe una grande perdita perché lui è produttore, autore di numerose delle canzoni dei Charlatans. Ho scelto il disco Telling Stories perché, anche lì, Charlatans hanno una discografia stupenda che arriva fino ai giorni nostri, loro sono sempre stati indipendenti, anche se hanno avuto il loro momento di distribuzione con la Sony. Telling Stories perché è un disco omogeneo, è un disco pieno di idee ed è un disco, maturo. A me piace moltissimo anche The Charlatans, quello precedente, che è il disco che li ha rivelati un pochino. Sì, che li ha fatti fare conoscere dappertutto. Però questo ha delle melodie, degli intrecci di melodie straordinari. Per dirvi, basta ascoltare One to Another. Sì, tu cosa hai scelto come pezzo? Ho scelto One to Another. Perfetto. Potevo sceglierne altri, ma sì. Ho dovuto cambiare, ne avevo scelto un altro, ma è un mix tra il Brit Rock e le loro vecchie influenze, funk, dance, eccetera, eccetera. Ascoltiamocelo, One to Another. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 21:32, avete capito benissimo, questa è una fascia oraria non più Blu Radio Sera, ma è Rock Wave questa sera, perché abbiamo veramente una grande serata all'insegna della musica rock. Comunque questa è Blu Radio Veneto, vi ricordo i nostri numeri telefonici, ovviamente a vostra disposizione per qualsiasi richiesta, domanda eccetera eccetera, a questi nostri grandi ospiti, ve lo ricordo, loro in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms è il 346 23 20 033. C'è Maurizio Calzavara che assieme a Gianni Della Cioppa e a Gianluca Merlin, meglio forse conosciuto come Gianluc, che poi ti devo chiedere una cosa Gianluca. Dimmi. Apro una piccola parentesi, tu che ami l'inglese, perché ti sei chiamato in francese? Ma in realtà questo nome mi è stato dato da un collega di radio che adesso non c'è più, perché c'era un discorso del comandante di Star Trek, no? Della seconda edizione, ecco. Jean-Luc Picard, che sai che l'astronave Enterprise, no, girava per i vari mondi, no? Sì. E così come l'Enterprise gira per i vari mondi, io esploro i vari mondi del rock. Certo. E da lì è nata sta storia. Poi essendo noi di cognome francofoni, diciamo che ci sta, insomma, ecco, sì, certo. Per un discorso anche di origini. Quindi l'ho adottato anche perché è molto facile da ricordare, insomma, ecco. Era solo una semplice curiosità, perché so che tu ami l'Inghilterra. Esatto. Beh, ma comunque il rock inglese c'è sempre. C'è sempre, c'è sempre. Bene, salutiamo anche il nostro direttore artistico che è idealmente vicino qua, adesso in giro per idealmente qui vicino, è Alberto Prisco. Ok. Ciao Alberto. Ok Gianni, adesso passiamo alla tua scelta. Allora, questa scelta, vi svelo subito il nome del gruppo, sono i Grand Funk Railroad. Ah, bene, bene. Ecco, diciamo che in qualche modo voglio essere paladino di questa scelta, perché sono un gruppo che ha venduto milioni di copie e per qualche strana ragione qui in Europa non sono mai diventati un gruppo di prima fascia. È vero, hai ragione. Sì. Allora diciamo che i gruppi americani in generale in Europa hanno sempre un po' sofferto il fatto di fare meno tour, no? Perché comunque una volta si vendevano i dischi, ma era importante anche farsi vedere dal vivo. Oggi magari è solo importante farsi vedere dal vivo perché i dischi non si vedono, non si vedono più. Esatto. Una volta erano necessarie entrambe le cose, quindi loro, essendo americani, come tanti altri gruppi, o erano gruppi veramente con un potenziale enorme e quindi potevano venire a suonare in Europa e quindi venivano conosciuti. Ma attenzione, c'è da fare una considerazione. Spesso alcuni gruppi, e loro avrebbero potuto farlo per il supporto economico, ma sono venuti a suonare anche in Europa. Sì, ma non hanno anche mai fatto, sì, certo, ma non hanno mai fatto quei tour importanti. Sì, cioè, erano altri nomi che giravano veramente per l'Europa. Ma erano una scelta. Cioè, probabilmente diciamo la struttura manageriale non riteneva significativo il fatto di dover investire in Europa le spese del tour. Dicevano sì, certo, venderemo qualche copia in più, ma alla fine a noi non interessa. Quello che valeva era la vendita americana, era il mercato americano. Ecco, loro diciamo sono stati un po' vittime di questo, ma è incredibile perché sono un gruppo che ha venduto oltre 30 milioni di copie, ha scritto delle canzoni fantastiche, ha quella versatilità che viene riconosciuta a tanti altri. Cioè spesso si dice le Zeppelin, Deep Purple, bravissimi, hanno avuto vari periodi, e quando è arrivato Glenn Hughes e Tommy Bolin hanno sferzato verso il funky, non parliamo delle Zeppelin, la loro versatilità. Anche magari gruppi hard rock inglesi minori comunque hanno i loro attestati di stima da parte di pubblico e critica, non so, Uriah Heep, sì. Lizzy, dico minori ovviamente tra virgolette. Chi li conosce sa cosa vogliamo dire con queste virgolette, però insomma quando si parla di nomi spesso si citano le Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath, quelli poi ci sono i nomi. Esatto, il trittico, poi ce ne sono altri, ma i Grand Funk Railroad non godono nemmeno di questa stima, diciamo di essere così laterali, no? Di periferia, ed è incredibile perché sono un gruppo fantastico, ha iniziato come trio dettando veramente le regole di quello che era un rock quasi cavernicolo, non a caso nel loro disco, il loro primo disco di successo, Survival, erano vestiti proprio, cioè non vestiti, erano da cavernicoli in una grotta con dei costumi da uomini primitivi. Poi hanno introdotto un quarto componente, un tastierista, hanno fatto dei dischi che sono arrivati addirittura proprio a sfiorare il funky prodotti, addirittura l'ultimo album è stato prodotto da Frank Zappa. Ecco, sì, che era sempre, insomma, Frank Zappa ci si potrebbe fare non una puntata, ma mille, era molto critico con i suoi colleghi, eppure gli sembrava aver trovato qualche cosa di interessante. Mentre la critica all'epoca magari li considerava i Grand Funk Railroad un po' degli zoticoni così. Ecco, io ho voluto scegliere volutamente un pezzo da un album del 75, che è quello che intitola il disco, dove io vi invito ad ascoltarlo con attenzione, perché praticamente siamo a ridosso veramente del suono Motown. Mm. Ecco, quindi per dire, questi erano i Grand Funk Railroad, che magari qualcuno li conosce solo per il singolo We Are American Band, certo, che è un pezzo bellissimo, però insomma è un singolo da 3 minuti da classifica, e pensa che quella sia la struttura del gruppo, a parte il fatto che erano bravissimi tecnicamente. Un'altra loro forza, che in Europa era poco considerata, nel senso pochi gruppi hanno fatto altrettanto, cantava il batterista e il chitarrista, quindi due voci soliste diverse che si alternavano, quindi uno spettro vocale maggiore, più possibilità, più roco il batterista, più diciamo virtuoso e acuto il chitarrista Mark Farner. Ecco, e io ho scelto questo pezzo, che è quello poi che intitola il disco del 75, All the Girls in the World Beware. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Allora, rock puro, purissimo, ovviamente qui a Blu Radio Veneto. C'ho già un messaggio per voi, è arrivato poc'anzi, e dice: bravi ragazzi, lezione di rock con la competenza della passione vera, quella di chi è cresciuto a pane e musica. Brano dei Charlatans, strepitoso. Rock on, firmato Roberto Zingarlini. Amico di Gianni, va bene, ci aveva promesso che ci avrebbe seguiti. Bravo. Ciao Roberto. Ciao Roberto. racconto un episodio quando sentivo Per voi giovani molti anni fa, io sono vecchio a una certa età, quando c'era in classifica Prudence Blue Funk, il disco di Grand Funk Railroad, che ebbe un grosso successo in Italia, il famoso disco rotondo della moneta, certo. della moneta lo saltavano sempre, saltavano sempre i posti, no? Lui non era mai trasmesso praticamente, quindi quando facevano le classifiche lo citavano e poi andavano esattamente oltre. È sempre così. Comunque questo può far capire tante piccole cose nelle dinamiche di come si può direzionare, certo, da una parte, certo, o dall'altra anche. Sì, che Per voi giovani è una trasmissione molto seria, che, però, certo, però in quel momento non fosse alla gente, cioè al presentatore non andava a genio fosse il gran fan. Ma guarda che è una storia italiana questa, cioè già i Beatles quando arrivarono, ci sono ancora le registrazioni radiofoniche di questi giornalisti dell'epoca che dicevano che questi qua erano quattro cappelloni, certo, che sarebbero durati due mesi. C'è qualcosa alla Rai che non ha voluto fare il filmato. Sì, esatto, esistono degli 8 mm, però con un audio, ma non niente di più, insomma, riprese amatoriali oppure riprese ancora più amatoriali del Teatro Brancaccio di Roma. Certo, io ricordo un'intervista di Boncompagni che diceva, vabbè, ma tanto si sapeva che questi qua non suonavano bene. Sì. Lui ha detto. Anche la Deca aveva detto una cosa simile quando non li avevano incacciati. Avevano preferito i Tremolos, che secondo loro erano i più famosi. Loro pensavano che fossero i complessi con chitarre stile Shadows. Sì, questo è vero. Questo. Certo. Dimmi, Gianni, volevi dire. Vabbè, nel caso della Decada, poi si sono riscattati. Sì, sono riscattati con i Rolling. Esattamente. Ciò non perdona. Esatto. Cioè, non rende imperdonabile comunque l'errore fatto con i Beatles. E... sì, parlando, ritorniamo ai Grand Funk. Ma insomma si possono dire tante cose, ecco, sono un gruppo che ha vissuto delle stagioni fantastiche, dopo si sono riformati nei primi anni 80 e come tanti secondo me hanno fatto dei passaggi a vuoto, tantissimi gruppi degli anni 70 che dopo si erano sciolti, una volta rimessi insieme non sono riusciti a ricreare quella magia, anche perché comunque il mercato in quel momento diceva altre cose, certo, chiedeva altre cose, un pubblico nuovo aveva bisogno di altri stimoli, per assurdo quasi tutti alle soglie del pensionamento sono riusciti invece a fare cose buone, tanti gruppi che si sono riformati. Grand Funk Railroad secondo me hanno avuto l'intelligenza, non hanno più con loro il chitarrista Mark Farner per scelta, perché ha deciso di fare una sua carriera solista che però è quasi sempre legata al mondo del rock cristiano, sì, quindi dischi quasi acustici, insomma pieni di melodie così, quindi l'hanno sostituito con un chitarrista cantante, Max Carl, che ha avuto delle esperienze come turnista, ma insomma è uno all'altezza, ma non hanno più fatto dischi in studio. Secondo me loro hanno avuto l'intelligenza di dire non siamo in grado di raggiungere i livelli che sono stati i nostri, abbiamo un repertorio che è storia, portiamo in giro quello. Certo, certo. Delle volte secondo sono me stati onesti. È come dire, è un grande segno di maturità e di umiltà, no? Come per dire, noi quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, lo portiamo in giro, lo facciamo sentire a chi ci conosce e magari a qualcuno nuovo, ecco. Certo, certo. Questi hanno portato in giro molte cose invece, quelli che hai scelto te adesso. Smith. Moltissime cose, hanno aperto molte strade per tanta, sì, gente. L'hai proprio detto tu, ho scelto proprio gli Smiths perché sono stati l'apristrada del nuovo rock inglese negli anni 80. Oggi tantissime band, dagli Oasis fino a tutti quelli che sono venuti poi, probabilmente non ci sarebbero stati senza gli Smiths. Si proveniva dal punk, si proveniva dalla dark wave, quindi tutt'altra scena. Arrivano loro, questi quattro ragazzi di Manchester, figli della classe operaia, in una Manchester uscita da un periodo nero che somiglia moltissimo al periodo di oggi dell'Italia, e parlavano innanzitutto la gente e poi avevano questo carisma straordinario di Morrissey che li trascinava, ma anche comunque Johnny Marr che riprendeva sonorità anni 60 dei Birds eccetera eccetera, che in quel momento, in un momento anche degli anni 80 di Revival 60s, ci andava perfettamente, unito un po' a queste sonorità new wave e a questa voce di Morrissey molto lamentosa, unita a dei testi che parlavano di gente comune, hanno creato una miscela esplosiva incredibile. Poi dobbiamo sottolineare una cosa, la famosa chitarrina di Johnny Marr non era proprio una chitarrina, era una chitarra grandissima. Parecchie chitarre. Sì, ma chitarrina nel senso, qualcuno diceva dispregiativo, era chitarrina di Johnny Marr, invece era un genio. Sì, sì. Ha lasciato ha fatto conoscere certe cose, ha fatto imparare a tanti altri come suonare la chitarra in determinate maniere. Certamente, riprendendo i suoni dagli anni 60, Birds, questo Jingle Jangle ripreso però in una come dire, in un contesto anni 80. Ma sai, diciamo che si veniva da un periodo in cui la chitarra era sempre vista come un elemento virtuoso, capisci? Quindi è chiaro che non è stato facile per molti entrare in una dinamica di ascolto dove la chitarra costruiva un telaio, un suono, anche per dire di Edge degli U2, no? Certo. Cioè, ma non fa soli, cioè la domanda era questa, insomma, tra gli ascoltatori, ma non fa una solo, sì, però con quegli accordi che faceva era una cosa fantastica, ecco. John Mayer in qualche modo era così, aveva un suono, il suono. Esatto, il suono. E la cosa bella è che il suono è talmente imponente che bastava sentire due accordi e capivi chi era il gruppo. Cosa che non sempre succede, no? Cioè, quindi identifica il suono, spesso è la voce, no? L'elemento distintivo della band. Ci sono dei gruppi in cui hanno la forza che è il chitarrista, è vero, senza l'assolo, il chitarrista con il suono. Ecco, gli Smith sicuramente fanno parte di questa categoria. Tu hai scelto uno dei pezzi più belli, secondo me. Sì, ho scelto un disco, diciamo, centrale. Sulle recensioni ho visto che non è poi tanto così celebrato, ma secondo me è un disco veramente eccezionale degli Smith. Poi anche la copertina era eccezionale, era molto, sì, al di fuori di tutte le copertine normali. Come proprio che lo spirito di Morris, quello di denuncia, quello del, ma anche già il titolo, Meat is Murder, sì. Lui era vegetariano e obbligava gli altri a mangiare vegetariano. Questo ha portato poi alla fine della band. Perché ho scelto, ricordiamo una cosa particolare, degli Smiths, ricordiamo sempre il gruppo, ma quando diciamo magari a un ragazzo giovane, una persona, dammi una canzone degli Smiths che dici questa è famosa, ti dicono magari Everyday is Like Sunday, che è di Morris invece. È vero. È una cosa che ho notato spesso nei musicisti, no? E gli dici, ma se gli dici Everyday, ah sì, è quella lì, però quella di Morris gli dici. Ho scelto How Soon Is Now perché questa è una cosa meravigliosa che coinvolge anche mia moglie. La stava ascoltando in radio e ha detto, ma questa qua è quella di Streghe. Come quella di Streghe, gli ho detto, è un pezzo degli Smiths, non è quella di Streghe. Siamo andate su YouTube, l'abbiamo collimata, praticamente era una cover americana rifatta ed è di un pezzo degli Smiths. Questo per dirti, no, la società moderna, ma è quella di, no, dite che è di quel gruppo, di quella. Adesso allora la riscopriamo nella versione originale. Un musicista, un cantante mi ha detto, ma guarda, io ci sento i Radiohead, ho detto, è una cosa particolare. Comunque la sentiamo, How Soon Is Now, che ha questo tremo, questo delay iniziale che è fantastico. How Soon Is Now. We'll be right back. Rockwave, l'onda del rock. Cosa dobbiamo dire? Un pezzo meraviglioso, meraviglioso ancora adesso, nonostante tanti anni. Molto attuale. Molto attuale, questo è un album del 1985, sono passati un po' di tempo, però poteva essere scritto ieri. C'è poco da fare. Adesso abbiamo una scelta, tocca a te Gianni, sì, una scelta interessante, come tutte le scelte di questa trasmissione. Ricordate, tutto live fino alle 24, è vero Agostino? Certo, siamo qui. E siamo a Rockwave. Ricordiamo anche le frequenze. Ricordiamo 88, 700, 94, 600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo che potete vedere anche questi grandi personaggi, grandi conoscitori della musica rock contemporanea e anche di quella passata soprattutto. Basta digitare sul motore di ricerca diretta a rockwave.tk, accederete nel nostro video, io salterò, cercherò di saltare da uno all'altro, insomma da Gianni Della Cioppa a Gianluca Merlin, che sono, in questo momento è inquadrato lui. Poi vi ricordo lo streaming audio, semplicemente collegandovi al nostro sito, cioè bluradioveneto.it, c'è una striscia rosa con scritto streaming, sotto c'è la ormai mitica, io la chiamo così, freccia nera sulla sinistra, cliccando lì accederete direttamente allo streaming audio di questa trasmissione e di tutta la radio 24 ore su 24. Ok, la giusta presentazione, la giusta ripresentazione, perché la gente deve ricordare chi siamo. Ci deve Gianni. Ascoltare, esatto, innanzitutto. Ma guarda, il pezzo che cioè la band, diciamo il gruppo che ho pensato di proporre adesso come terzo, diciamo, sono i Cheap Trick. E mi rendo conto solo adesso che sono tutti e tre americani, mentre quelli di Gianluca tutti e tre inglesi. Beh, almeno ci siamo bilanciati. Esatto. E, diciamo che c'è un po' di affetto personale, chiaramente. Ma sono quei gruppi, loro fanno parte di quella categoria di gruppi fantastici, che anche questi in Europa ovviamente sono sempre arrivati di rimando, addirittura ricordo Ciao 2001, insomma, con qualche articolo anche un po'... un po' gossip, più che musicale. Sì, sì, un po' scanzonato. Esattamente. Loro sono la dimostrazione di come comunque un amalgama manageriale e di qualità possa fare la differenza. E sono stati costruiti... Allora, loro erano quattro musicisti, ok? Sono trovati, quindi a tavolino non c'è nulla. Un manager ha avuto l'intuizione, rendendosi conto che due avevano un aspetto, diciamo, carino e due simpatico, diciamo, mettiamola così. Esatto. E quindi ha costruito la band a livello di immagine su questo dualismo, no? I due, il bassista e il cantante, i belli, e il chitarrista, che comunque era il compositore, in realtà aveva Rick Nielsen, aveva tutto famoso per la sua collezione enorme di chitarre, e il batterista, erano i brutti. Batterista addirittura, credetemi, era una cosa imbarazzante, aveva l'aspetto di un ragioniere da film di Fantozzi, insomma, proprio già appesantito in gioventù, però bravissimo. Ma, e questo, diciamo, è la presentazione. Ma il grande colpo geniale è stato questo. Loro avevano già fatto due dischi in studio, però non decollavano, nonostante, credetemi, il secondo In Color è veramente bello, ma bello, un disco che si può ascoltare ancora oggi, un pop rock immediato. Venivano definiti, perché all'epoca sembrava che ci fosse sempre questa esigenza, gli eredi dei Beatles, e avevano delle melodie vocali che insomma un po' li richiamavano. Non vi dico cosa è successo quando negli anni 80 il loro disco è stato prodotto da George Martin. Esatto. Ecco, quindi queste somiglianze, insomma queste ipotetiche somiglianze sono diventate quasi certezze. Comunque, cosa fa? Il loro manager ha avuto questa idea. Dopo due dischi di studio che non decollavano, li ha portati in tour in Giappone, presentandoli come delle star. Cioè loro ha detto, ha cominciato un battage pubblicitario in Giappone dicendo: preparatevi, acquistate i biglietti, stanno per arrivare i nuovi idoli del rock americano. Ma in realtà loro in America erano semi sconosciuti. Il pubblico giapponese in qualche modo ha abboccato, poi il pubblico appunto nipponico, sempre sensibile un po' al fascino del rock taro, della rock star sul palco, quindi il cantante Robin Zander, il bassista Tom Peterson, si presentavano anche in modo inusuale, secondo me un po' eleganti, capelli lunghi, però avevano magari la cravattina, il fiocchetto, il completino di lino, quindi erano belli da vedere. E quindi, prima ancora che arrivasse in Giappone, esaurite tutte le date, tanto che vanno a suonare al Budokan e decidono di registrare un live, che poi diventerà il loro famoso Budokan. Di rimando in Inghilterra, cioè in America, scusate, in patria, qualcuno ha cominciato a farsi una domanda, perché guardava le classifiche giapponesi e diceva che loro sono rimasti un bel pezzo lì a suonare. Questi Cheap Trick sono americani, noi qua non li conosciamo, come mai sono in classifica? E quindi è successo il fenomeno inverso. Quando sono atterrati in America, c'era il pubblico americano che li attendeva e loro pronti con il loro Budokan stampato in America, perché era reperibile solo giapponese. E quindi dopo ovviamente ci vuole la qualità. Certo. Però delle volte è necessario trovare anche il grimaldello che permetta, visto quando ci si è convinti che la qualità c'è, per diciamo trovare delle scappatoie per arrivare al pubblico. Quindi, e questa è stata una di quelle. Quindi stavolta il manager è stato geniale. Geniale, sì, sì, sì. No, ma secondo me erano negli anni 60, io direi anche negli anni 50, 60, 70, i manager spesso erano veramente personaggi determinanti nell'affermazione o meno di un gruppo. Erano anche un po' artigiani, no? Avevano, certo, gente che aveva navigato, spesso ex musicisti, gli stessi Grand Funk Railroad che abbiamo citato prima, il manager era un ex musicista che era stato addirittura nella primissima formazione pre-Grand Funk, che si è accorto di non aver talento, ma l'aveva da un'altra parte. E quindi è stato lui poi a fare a trovare il viatico per fargli firmare per la Capitol, proponendoli, senza avere nessun disco, ad un festival, dicendo suonano gratis, anzi diceva pago io se li fate suonare in apertura a questo festival e voi state tranquilli. Finito il festival c'era la fila per chi voleva far firmare il contratto e lui li ha venduti alla Capitol, così ha trovato i soldi per pagare quello che non aveva in tasca quando ha detto pagherò se fate suonare il mio gruppo. Cioè cose fantastiche, certo, capito? Certo. Cose oggi impossibili, nel senso oggi paghi ma comunque successo non lo fai. Comunque per dire che i Cheap Trick, insomma, questi quattro personaggi poi hanno avuto il loro successo, come tutti hanno avuto un momento alto, un momento di buio. Voglio solo ricordare un episodio perché ho avuto la fortuna di intervistare anche solo per telefono Rick Nielsen, che lui mi ha confessato che con l'avvento del grunge, nonostante proprio Kurt Cobain gli riconoscesse un'influenza incredibile, c'è un'intervista proprio di Cobain dove un giornalista gli cita mai Black Sabbath, lui dice ma quali Black Sabbath, io sono come un qualsiasi teenager americano nato a, cresciuto a Kiss e Cheap Trick, ok? No, tanto per dare un'idea, no? E Boston. E Boston, che Boston, di cui riprendono il pezzo e poi lo rifanno, insomma va bene, ecco, questa è una cosa simpatica da vedere in video. E lui insomma si diceva abbiamo avuto un momento veramente difficile dove non si vendeva, avevamo perso il contratto con la Epic della famiglia Sony, quindi sì, un contratto veramente importante, e non sapevano come fare, non riuscivano a trovare date, e lui disse che uscì da un negozio, un bar, adesso non si ricordava bene, e vide sul sedile di una macchina tutti i CD dei suoi album e rimase lì ad aspettare per vedere chi saliva. Mi aspettavo un vecchio babione come me. E vidi salire una coppia di ragazzini giovanissimi, lui e lei, in questa macchinetta, che preso il mio CD e partirono cantando una nostra canzone. Io in quel singolo episodio ho avuto un'energia straordinaria e tornammo, rividi i ragazzi e disse no, dobbiamo continuare. Cioè pensate che bello, un episodio può aver deciso la carriera di un gruppo da una parte o dall'altra. Una cosa meravigliosa. Una cosa meravigliosa. Il pezzo che ci andiamo a sentire è un classico loro, Surrender, ed è la prima canzone con cui diventano, diciamo, conosciuti anche in America, in patria. This next one is the first song on our new album which just came out this week. It's called Surrender. Never Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, 22.09, 22.10 quasi. Abbiamo passato un'oretta piacevolissima. Abbiamo altre due ragazze, quindi esatto, ci saranno tante belle sorprese. Tante. Adesso abbiamo, non è una sorpresa, questo è un gruppo che noi, io personalmente, ho una certa età, ho sempre amato. Qualcuno lo chiamava dark, qualcuno lo chiamava gothic, post-punk. Erano loro e basta, vero Gianluca? Sioux and the Banshees. Erano loro e basta. Esatto, cioè comunque erano, facevano parte comunque di un movimento che era la Dark Wave, che vedeva anche Echo and the Bunnymen, The Cure, i Joy Division. Perché ho scelto Sioux and the Banshees? Perché hai scelto loro? Perché tanto lei era un personaggio, è ancora un personaggio, una solista. Ma perché innanzitutto erano molto originali, prima di tutto, e poi perché sono una specie di anello di congiunzione tra quello che è il punk. Infatti Sioux faceva parte del famoso Bromley Contingent, sì, che era il gruppo di quella cozzaglia di amici così che giravano attorno ai Sex Pistols. Certo. E poi perché nella primissima formazione, esistono delle fotografie, lei aveva come batterista Sid Vicious, che era il suo, diciamo, amante. E poi loro a un certo punto, nei primi anni 80, hanno avuto questo cambio di line up. Due degli elementi sono spariti, una folgorazione possiamo dire, non si è capito perché. I nuovi elementi che sono entrati hanno dato un nuovo tipo di sound alla band, quindi sono passati da un punk distruttivo a una musica molto più introspettiva. Qualcuno dice ci sono delle influenze dei Doors all'interno, anche cerebrale possiamo dire questo. Sì, addirittura in un concerto del 78 di Sioux and the Banshees, chi aprì Sioux and the Banshees fu Nico, che tra l'altro fu anche gli attirarono di tutto, dal chewing gum fino alle lattine. Peccato, perché era un genio secondo me. Sì, io ho letto cose del tipo lei andò nel backstage, vabbè, era l'epoca in cui... E possiamo parlare un momento, fare una piccola presentazione su Nico, dai, perché no? Sì, in quell'epoca era un po', diciamo, in un periodo abbastanza farmacologico, tossico, ecco, tossico, insomma, ecco, così. Lei aveva appena suonato con l'Harmonium, poi ha insultato il pubblico, certo, ed è uscita. Quello che non hanno capito probabilmente gli appassionati di Sioux and the Banshees è che loro volevano dare una sorta di tributo a un artista che aveva realizzato già all'epoca delle sonorità un po' più cupe, un po' più introspettive. E Sioux è passata dal cantare, lei aveva detto il primo concerto che ha fatto non avevano niente in repertorio, volevano cantare una versione più, diciamo, del treno che arriva alle 10 della mattina dell'Ave Maria, una cosa. E poi l'è passata a testi veramente straordinari. Juju è un disco, oltre assieme a Kaleidoscope, ad Anello, dove la band arriva al massimo della maturità. Non che i dischi successivi siano stati brutti, però qui è il momento, diciamo, magico della band, in cui sono venuti anche in Italia, hanno suonato da noi, insomma. Un momento straordinario, un sound straordinario, una voce straordinaria e non so, ci ascoltiamo il pezzo, diciamo uno dei pezzi forti di... È un delirio vero proprio su questo pezzo, un delirio chitarristico. Sì, una composizione musicale straordinaria dove molti appassionati di New Wave troveranno pane per i loro denti. Okay. Il brano si chiama Spellbound. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. Thank you. Shockwave, l'onda del rock. C'è poco da fare, questo è un pezzo favoloso. Pazzesco. Era un po' di tempo che non lo sentivo, però ha sempre un fascino immutato. Quel basso, sì, quel basso, che... basso ti entra dentro proprio, dietro nelle viscere praticamente, incredibile. Okay. Siamo Gianni. Sì, beh, intanto Maurizio ti faccio i complimenti perché sentendoti, noi la prima volta che ci incontriamo, sentendoti così parlare, eccetera, al di là della tua cultura vastissima, è bellissimo comunque vedere che sei uno, non dei tanti, non voglio dire dei pochi, che pur venendo diciamo dagli anni 60-70, negli anni 80 ha saputo cogliere le cose importanti a livello artistico. Molti invece si sono fermati. Diciamo che quando si è arrivati nell'80 hanno preferito vivere di nostalgia dicendo una volta, cosa che poi diciamo ciclicamente ogni generazione fa, convinta che la musica dai 15 ai 30 anni sia l'unica valida. Lo sai che c'è anche proprio uno studio psicologico, sì, e proprio diciamo è una cosa scientificamente provata che la mente, il cuore e le emozioni dai 15 ai 30 anni sembrano essere le uniche racchiuse che noi siamo convinti che siano le migliori, ecco. E quindi fare, compiere quel passo e dire no, c'è del buono anche dopo, ma parliamo di tutto, musica, cinema, letteratura, no? E, è bello, insomma, secondo me. È una cosa con cui fatico a confrontarmi perché sono a ridosso dei 50 anni, molti miei coetanei li trovo veramente invece ancorati ad un periodo sicuramente importante, significativo, lo sappiamo, siamo qui anche a raccontarlo. Certo. Ma fermi, capisci cosa voglio dire? Ecco, io sono qui, piccola parentesi, lo facciamo vedere. Questo è l'ultimo mucchio extra. Si spostano le telecamere. Certo, grazie Agostino. Ecco. È l'ultimo mucchio extra legato al mucchio selvaggio che si trova in edicola in questo periodo. E c'è questa selezione di dischi, diciamo i 100 album fondamentali, come dire, per volere della redazione, dal 2001 al 2010. Ecco. Quindi, come per dire, la volontà, prego, lo lascio qui inquadrato, ecco, che c'è della roba buona anche adesso, certo, cioè è ora di finirla di vivere solo nostalgici, anzi, per certi aspetti, io ho anche più stima di questi gruppi nuovi che faticano, uno, a farsi conoscere perché le dinamiche del mercato sono cambiate, ma anche perché, se è vero che da una parte hanno mille cose in più a cui attingere perché ci sono tanti segnali dal passato, però è anche vero che molto è stato già detto, quindi trovare degli nuovi spunti è sempre più complicato, no? Ecco, invece ci sono delle cose buone, bisogna avere anche un po' voglia e io ti ringrazio per questo, ma la palestra è stata questa radio, tutti i conduttori di diverse generazioni, io ero una certa età, certo, ci sono stati altri più giovani di me che hanno portato nuovi suoni, quindi per quello non mi sono fermato, quindi certo, motivo è anche questo. No, ma è importante, però bisogna essere anche un po' predisposti, perché invece molti si chiudono, no? A riccio, cioè. Certo, sì. A sono me piace un po' nostalgici, questo è esatto. Per non parlare dei tifosi in musica. Sì, esatto. Tifosi in musica, hai detto, Gianluca, esatto, hai detto una definizione cosa esatta. Rimanendo in questo tema, passo questa volta all'Inghilterra anch'io. Stiamo andando un po' in ordine cronologico. Primi 70, c'era già diciamo alla fine degli anni 60, anche in Inghilterra c'è il momento d'oro del rock progressive. Certo. Ecco, anche in questo caso i nomi che si citano sono sempre gli stessi, no? Siamo tutti d'accordo che siamo qui a venerare i Genesis, siamo qui a dire che i Jethro Tull con i loro richiami folk, gli Yes, insomma, Emerson, Lake & Palmer, virtuosissimi con questi richiami operistici classici. Ma per esempio un gruppo come Gentle Giant sono sempre dimenticati e sono un gruppo straordinario. Anche questo... questo gruppo ha avuto l'intelligenza, secondo me, a un certo momento di farsi da parte, no? Pochi magari sanno che il cantante è diventato un grandissimo talent scout, un responsabile di case discografiche, ha scoperto gruppi, ma non solo legati a rock progressive, anzi, cioè, quindi, intendo dire, si può amare un genere, suonarlo, cantarlo, però poi saper trovare la qualità anche altrove. E diciamo che l'obiettivo che ci siamo un po' dati tutti questa sera, mi sembra di poter vedere, è che di dare nuove prospettive, no? Nuovi angoli di visuale di quella che è la scena rock, perché per me, dico la verità, sarebbe stato semplice questa sera, immagino anche per te Gianluca, venire qui, fare il compitino, scegliere i soliti 15 nomi, li vogliamo dire, e partiamo, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, David Bowie, si fa presto, no? E di cui si sa tutto a memoria, non bisogna neanche stare lì a rileggere nulla, tanto qualche cosa salta fuori e poi andare a casa contenti. Però a noi piace pensare che questa sera chi è che con noi, perché il programma poi lo stiamo facendo insieme, sì, a chi ci ascolta, certo, certo, coglie dei segnali e dice: perfetto, tanti gruppi li conoscevo, però tre no, e ho trovato che sono interessanti, voglio andare a capire qualche cosa di più. Ti una cosa, Gianni, è vero l'episodio di Ian Anderson che ha mandato via i Jethro Tull, cioè i Gentle Giant, che facevano da spalla per i Gentle Giant, erano più amati dal pubblico in una serata di un concerto famoso? È vero o solo una nomea? Allora, è chiaro che io non posso avere la verità in tasca, è una cosa che si è letta, ognuno ha le sue, diciamo che non ha mai smentito Anderson, capisci? Okay, quindi, però è una cosa che ci sta, succede. Erano molto bravi i Gentle Giant. Esatto, poi delle volte, allora, se diciamo che il gruppo non prende un gruppo all'altezza è perché ha paura, e allora ci fa sentire un gruppo non all'altezza. Se prende un gruppo bravo, poi ma sono troppo bravi. Ecco, diciamo succede. Adesso, secondo me, non si può parlare in termini assoluti, ma una cosa così era successa anche a Bob Seger con i Boston. Certo. Se li era portati, poi era esploso More Than a Feeling, e i Boston hanno detto, cioè la casicografica ha detto no, i Boston vanno via da soli, e Bob Seger si è trovato un vecchio rocker come lui, orgogliosissimo, che ha fatto delle cose fantastiche, che viene dagli anni 60, si è trovato a dover dire come no, io non faccio da spalle ai Boston che hanno fatto un disco che dura 38 minuti, si arrangiano e io al limite me ne vado da solo, certo, per dire. Quindi sì, sono cose che succedono. Benissimo. Comunque noi dei Gentle Giant, gruppo che è partito nei primi anni 70 e ha coperto tutto il decennio per poi spegnersi in qualche modo con l'arrivo del punk, e adesso girano alcuni componenti, cercano insomma di fare, sono passati anche a suonare da Verona, due della band, con altri musicisti italiani, addirittura in una proposta, in una rilettura solo strumentale di alcuni loro brani, insomma cose un po' così, li ho ascoltati, devo dire, anche un po' troppo ostici, così probabilmente sarebbe stato anche meglio trovare un buon cantante e farli risentire, anche perché in questo caso non ci sarebbe nulla da dire, non li possiamo più sentire, Gentle Giant, così com'erano, quindi ci stava anche. Ecco, noi comunque ci riascoltiamo con la title track di un loro album non considerato un classico, ma per me è bellissimo, In a Glass House, Gentle Giant. We'll be right back. Spot. La GMG 2011 a Madrid è anche su Blu Radio Veneto. Ogni giorno collegamenti con la Spagna e i nostri giovani che partecipano alla Giornata Mondiale della Gioventù. Madrid 2011, fino al 19 agosto alle 14.30 e 20.30 e in podcast su bluradioveneto.it. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sono le 22.31 di questo lunedì 8 agosto 2011 con la voce di Agostino Spolore, ma soprattutto con quella di Maurizio e di Gianni Delle Ciope e Gianluca Merlin. Ne approfitto, vi rubo qualche secondo perché ci sono degli ascoltatori che vi stanno facendo i complimenti, sono lì presenti, vi stanno ascoltando, soprattutto Gianluca, la conosci anche te, una manager siciliana, chiamiamo così, una detta stampa, si chiama Barbara, la salutiamo con un abbraccione, un grande bacione. Ciao Barbara. Ciao Barbara, stai sempre lì bene in ascolto, mi raccomando, fai un buon lavoro come lo stiamo facendo, cercando quantomeno di farlo noi. E poi salutiamo Maurizio, un carissimo amico che è venuto qui giovedì scorso, ha suonato il pianoforte Alberto, ha incantato tutti, è felicissimo Alberto Lupi Musso, ci ringrazia ancora dell'invito e quindi lo portiamo un caro saluto a lui e anche alla Giovanna ovviamente. Certo, ciao Alberto e grazie di essere venuto qua a suonare in modo splendido quel giovedì. E parlando di suoni, era bellissimo questo pezzo dei Gentle Giant. Erano bellissime anche le copertine di Gentle Giant, aveva un fascino incredibile ed erano in classifica in Italia, ma molto in classifica. Sono molto stati molto amati dalle certo, nostre parti. Ma un po' tutto il rock progressive. Esattamente. Diciamo anzi che ha trovato terreno fertile molti gruppi prima in Italia che all'estero. Fa parte un po' del nostro suono, insomma. Credo che l'unione il rock progressivo anche a livello culturale ha avuto un'importanza fondamentale, perché è stato un suono che ha portato due classi sociali assolutamente distanti per la prima volta vicine, perché poi musicalmente è nato da gruppi di rock giovani, quindi figli del proletariato, che hanno incontrato i figli della borghesia inglese, in questo caso britannica, perché avevano studiato il violino, certo, ovviamente i figli di personaggi facoltosi avevano studiato il violino, il pianoforte, però erano giovani, erano attratti da questo suono nuovo e quindi andavano a bussare a queste rock band chiedendo ci piacerebbe suonare. Chiaramente portavano la loro cultura nata sulla musica classica e dall'incontro di questi due mondi è nato, io chiaramente sto sintetizzando però per arrivare diciamo al nocciolo della questione, dall'incontro di questi due mondi è nato un suono nuovo, straordinario, che lo possiamo dire Maurizio, certo, orgogliosamente in Italia l'abbiamo fatto probabilmente in tempo reale, non abbiamo avuto bisogno di ascoltare gli inglesi. Siamo stati i primi. Io credo che in qualche caso è stato il contrario. Sì, è vero. Abbiamo avuto dei gruppi fantastici, alcuni sono ancora attivi, suonano, amatissimi anche all'estero, le Orme, il Banco del Mutuo Soccorso, gli Osanna, che io amo particolarmente, la premiata Forneria Marconi, e tutta una serie di gruppi minori, per modo di dire, alcuni comunque conosciuti, Trip, Balletto di Bronzo. E cosa pensi della ricostituzione di Trip estemporanea a Roma qualche mese fa, quando avevano fatto questo concerto? Ma io credo che l'abbiano fatto per amore della musica, quindi quando succedono queste cose a me va bene, insomma. Io sono sempre scettico sulle riunioni creative dopo tanto tempo, cioè se mi fai un disco nuovo dopo 30 anni che non suoni, nel frattempo hai fatto il turnista per Tozzi, ti sei barcamenato di qua, no ma va benissimo, sì, sì, sì, no, okay, attenzione, okay. Può darsi che tu abbia talmente tante idee nel cassetto che venga fuori qualche cosa di buono, dico tu per dire chiunque. Certo. Io non credo, a me, anche perché me lo dice l'esperienza, che spesso non è andata così. Però se tu ti riformi e mi suoni i dischi di una volta, con quell'amore che avevi al tempo, mi va benissimo. Non voglio sapere l'età che hai, importante. Ecco, quindi per esempio in questo senso ammiro tantissimo il Banco del Mutuo Soccorso, che ha fatto la scelta di non far più dischi nuovi. È vero. Perché loro hanno detto, come dicevo prima per altri, la nostra storia l'abbiamo fatta, sappiamo che la gente vuole ascoltare quello e noi facciamo quello. E continuano a suonare praticamente. Certo. Gianluca, anche queste continuavano a suonare un tempo, ancora adesso mi pare. Sì, suonano ancora, sono rimaste loro due. Cioè due sorelle, due sorelle Wilson. Anne e Nancy Wilson, per la precisione. Loro continuano a suonare in un calendario fittissimo di date in giro per gli Stati Uniti. I membri della band tutto intorno a loro sono cambiati. Di prestigioso che hanno suonato con loro è stato Mike Inez, che è bassista degli Alice in Chains, ha suonato con Ozzy Osbourne, eccetera eccetera. Tutta un'altra musica rispetto a loro. Sì, ma non è vero, ma non è vero, vero? Sì, diciamo che è un mondo simile, però è un po' diverso, perché sì, qui ci vuole un po' più di tecnicismo rispetto magari agli Alice in Chains. Stiamo parlando delle Heart, o degli Heart, qui non si è mai capito questo discorso, perché a un certo punto la leadership è passata nelle mani da loro. Io ho scelto il disco di esordio del 1976, Dreamboat Annie. Potevo scegliere quello successivo perché c'è Barracuda, è stata un po' ripresa anche in alcuni giochi di computer, si sente ogni tanto, magari anche su Guitar Hero. È stato questo giochino che ha fatto un po' riscoprire tanti ragazzi a determinate canzoni. Ho scelto invece Dreamboat Annie perché è stato innanzitutto il primo disco di successo. Loro sono canadesi, ma hanno avuto successo in America, con una musica assolutamente elaborata, straordinaria, ma con all'interno una melodia incredibile, con alcuni ripescaggi dei Led Zeppelin, sì, sicuramente. Soprannome i Led Zeppelin gonnella. È vero, esatto. È verissimo questo. Noi sentiamo un brano straordinario che già dall'inizio, dai primi numeri di chitarra, si fa capire che cosa la bravura di questi musicisti, in particolar modo di Ann Wilson, che è ancora bravissima, la sorella, Nancy, che è la chitarrista, Ann, che se la vedete nelle immagini di oggi è un pochino sovrappeso, però non ha più sicuramente la voce di una volta, però grande rispetto. Una cosa che a me è andata un pochino di traverso, un filmato che ho visto di, mi sembra, American Idol, dove cantavano loro, a un certo punto è arrivata Fergie, quella dei Black Eyed Peas, e questo ovviamente ci vuole rispetto per i musicisti di una volta, no? Cosa ha fatto? La ruota, si è messa a cantare, a fare un pochino, no? A tirarsela. La protagonista, certo. La protagonista. È chiaro che questo, ha 30 anni di meno, può permettersi anche vocalmente. Però diciamo che è una specie di, come dire, di colpo alla schiena a Ann Wilson, che magari non riesce più a prendere certe note. Ma noi ce li riascoltiamo nel 76 con questo straordinario brano che si chiama Crazy on You. Thank you. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, le Heart hanno sconvolto le classifiche di Blu Radio Veneto stasera. Bello, ho visto Agostino emozionato. Sì, sì, è un grande gruppo le Heart. Poi te lo rubo questo disco. Ecco. Non lo conoscevo, sinceramente non lo conoscevo. Benissimo, una cosa molto positiva. Consigliatissimo, credito il Queen, il successivo, c'è cioè Barracuda, un pezzo, un altro sì, pezzo. Se fantastico. Qualcuno non vuole così, prendere i dischi solisti, i dischi singoli, facciamo una bella raccolta. Una cosa particolare che Gianni sottolinea sempre: gli americani hanno sempre il gusto della melodia, sì, della canzone che deve essere melodica e radiofonica, mentre invece gli inglesi amano sperimentare. Hai ragione, hai ragione. Certo, sì, sì. Questo me l'ha sempre sottolineato ed è vero. È verissimo. So, facciamo un musicista che non so definire, Gianni. Non so definire perché io lo amo particolarmente, l'ho citato in continuazione nelle nostre trasmissioni live e i ragazzi giovani lo citano in particolare anche loro, è una cosa molto positiva secondo me. Certo, sì, sì. Quindi intanto svegliamo il nome, Nick Drake, che probabilmente è l'artista da culto per eccellenza. È vero. No. E insomma, diciamo che le note biografiche sono veramente poche. Un artista che ha fatto 3 dischi, stiamo parlando dei primi anni 70, di una timidezza straordinaria e difficoltà a esibirsi dal vivo. Alcune volte iniziava i concerti, poi si fermava, andava via. Probabilmente, io credo, e poi il mistero, come è morto? È vero. I genitori sono convinti che non si sia voluto uccidere con la classica mistura di medicinali e sonniferi, perché è morto proprio in casa e l'hanno proprio scoperto, diciamo, i familiari. E poi ci sono state le solite inchieste, verifiche, però sembra proprio che sia andata così. Però i genitori comunque sono convinti di no, perché dicono, quindi anche in questo caso il mistero, qualcuno ha voluto. Ma noi diciamo che, almeno personalmente, sono cose marginali per me. La c'è sorella ha detto una cosa particolare. Esatto, la sorella. Che diceva Nick, in realtà lui amava la vita, però siccome ormai erano alcuni anni che lui continuava sempre a svegliarsi di notte, la mamma ha detto, io gli preparavo sempre qualcosa di sera, lui si metteva di notte a mangiare. La sorella ha detto una cosa incredibile, ha detto, probabilmente lui ha preso l'ennesima pastiglia, si è addormentato, avrà detto, beh, se è il momento, me ne andrò. Ma in realtà lui, cioè, non voleva uccidersi, però certo, la depressione è stata una malattia tremenda che lo ha distrutto. E probabilmente non era un artista che era predisposto per esibirsi dal vivo, ed è tutto ciò che probabilmente non dovrebbe essere un musicista oggi, o comunque non dovrebbe essere mai, cioè una persona che ha paura del palcoscenico, o certo, comunque non sa come porsi di fronte alle persone. John Martin ha detto, se io fossi stato sul palcoscenico a suonare e la gente parlava e schiamazzava, li avrei insultati. Nick semplicemente non poteva. Ho capito. Certo, non aveva la personalità. Io ho sentito il grande Ivan Graziani insultare il pubblico in un'occasione, stava leggendo una poesia, qualcuno sghignazzava e l'ha mandato letteralmente a quel paese. Il tipo si è ribellato, noi del pubblico ovviamente siamo stati dalla parte di Ivan e l'abbiamo cacciato fuori a pedate. È stato anche un momento veramente bello, perché insomma ci siamo uniti tutti insieme, fuori, vai via, se non ti interessa vai, ecco, nonostante lui, io ho pagato il biglietto come voi, non ci interessa, ecco, per dire che... Non insomma, è stato, scusami se ti interrompo Gianni, non è stato nuovo Ivan su queste cose, sì, quando è venuto qui a Padova, ecco, ha fatto qualcosa con il pubblico. No, è un musicista molto esigente sul palco, lui diceva io suono perché ha voglia di ascoltarmi, insomma questa era un po' le sue regole, sarebbe un po' sempre così. Diciamo che oggi con gli happening giganteschi che sembrano funzionare solo quelli, non se ne accorge nessuno se la gente è lì è solo per bere una birra. Importante che faccia numero e dica io c'ero, perché esatto, sembra quasi così, no? Oggi quando si va a vedere i gruppi che di grande richiamo, l'importante è dire io ero tra il pubblico, poi come è andato il concerto chi lo sa, magari non sono nemmeno in grado di dirlo. Per quanto riguarda Nick Drake, allora Gianluca ha detto che la sorella ha detto amava la vita, l'ho appena letto di Jim Morrison, di cui ricorre i 40 anni dalla morte, l'abbiamo appena letto in tantissimi posti, Jimi Hendrix, Janis Joplin e di tanti altri. Probabilmente amavano la vita, ma hanno fatto fatica un po' a governarla questa vita, capisci? Anche perché nel caso di Nick Drake, io ho letto il libro Le biciclette bianche di Joy Boyd, che consiglio vivamente, che è stato un manager, produttore, un personaggio quasi fantastico. Un papà. Sì, sì, ma un americano che ha 18 anni, pensate che bello, un americano che è venuto in Europa, in Olanda, poi è andato in Inghilterra, aveva 18 anni, e lui nel suo libro dice nelle primissime pagine, ho capito che era lì che tutto stava succedendo. Era nella seconda metà degli anni 60 e non sono più tornato a casa. È vero. Pensate che bello, un americano, che di solito l'orgoglio americano è difficile da scalfire, gli ho detto: ho capito che era lì che tutto stava succedendo, Londra, e non si è più mosso, insomma, ecco. È uno che ha scoperto Pink Floyd. Sì, sì, sì, il primo singolo l'ha prodotto lui. Fair Pro Convention. Ecco, poi nel libro ci sono tanti episodi e parla anche di Nick Drake, perché ha lavorato con Nick Drake. Esatto. E lui dice che non c'è una spiegazione del perché questo ragazzo fosse così fragile, era così e basta. Tutti intorno gli riconoscevano il talento e cercavano di spronarlo. Lui garantisce che nessuno si è mai fatto da parte quando era il momento di dire: guarda che c'è, però non ce la faceva. Lui aveva dei momenti in cui era terrorizzato. Pensate, giorni e giorni prima del concerto, lui già cominciava a dire: non ce la faccio. Quindi era veramente complicato. Comunque, noi cosa vogliamo parlare? Che ci ha lasciato dei dischi, tre album emozionantissimi, belli, di una semplicità. E le sue canzoni sono la dimostrazione di due cose. Una, che va nettamente in contrasto su come funziona il mercato oggi. Aveva una voce semplice, di una pacatezza, una dolcezza. Oggi passerebbe assolutamente inosservato, perché oggi sembra che i cantanti che funzionano devono avere solo estensioni. Non è così. Io vi invito a sentiremo un suo classico, Pink Moon, e a sentire come dice, cioè il tono con cui dice Pink, Pink Moon. È incredibile, lo sta solo sussurrando, non c'è nulla di vocalità intesa come immaginiamo il cantante, no? E ci sono due accordi sotto, non ce ne sono mille, due accordi di chitarra. È una canzone che da sola, voglio dire, fa scomparire centinaia di canzoni orchestrali piene di arrangiamenti, eccetera. E anche lui non è stato compreso, ha venduto pochissimo. E dopo il tempo, quando dei nomi grossi hanno cominciato a dire, chi ti ha influenzato? Ovviamente ti aspetti sempre il nome altrettanto grosso, e si sente cominciare a dire Nick Drake. Ma chi è questo Nick Drake? Ecco, e lo stesso Jeff Buckley, che per qualche modo ha pagato un po', perché di fatto Jeff Buckley ha fatto un disco solo, insomma, assolutamente fantastico ed epocale, però un disco solo, quando gli si parlava, lui parlava di Nick Drake. E quindi qualcuno si è fatto qualche domanda. Poi la curiosità, insomma, questo pezzo venne messo come pubblicità nella Maggiolino. Esatto. Fa un po' tristezza, però io dico, se doveva essere questo il grimaldello per arrivare a far conoscere Nick Drake, mi va bene lo stesso. Ci ascoltiamo allora insieme Pink Moon. I saw it written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, gonna get you on the Pink Moon. Yeah, Pink Moon. Pink, pink, pink, pink. Pink Moon. Pink, pink, pink, pink. Pink Moon. Saw it written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, gonna get you on. It's a Pink Moon. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, Gianni, devi citare assolutamente un episodio, sì, per far capire chi era, quanto bravo era questo personaggio. Sì, no, ma mi è venuto in mente quando il pezzo è partito, ma insomma siamo qui. E quando appunto era uscita questa pubblicità della Volkswagen che rilasciava il maggiolone nuovo, il maggiolino, c'era questa canzone appunto di Nick Drake che accompagnava lo spot. E un pezzo che poi ha messo d'accordo intere generazioni, cioè diverse generazioni, tanto che le richieste che arrivavano agli uffici della Volkswagen di chi fosse quel brano, perché chiaramente nello spot non si sapeva, aveva indotto la Volkswagen ad aprire sulla loro home page un link con la copertina del CD, con scritto questo è il brano praticamente in tutte le lingue possibili che accompagna lo spot del lancio della nuova macchina. Per comprarlo digita qui e si apriva Amazon. Bellissimo. La pagina relativa, no, per dire che detto, eravamo stufi di dover dire è Tizio Caio, in questo caso Nick Drake, che comunque ha fatto 3 dischi, ragazzi, noi abbiamo sentito questo brano che sono 2 minuti che da soli valgono oro, le sue canzoni erano sempre così piene di emozioni, semplicissime, ed è un modo diverso di approcciarsi, perché oggi quello che mi lascia un po' perplesso, no, nelle canzoni di oggi di alcuni artisti, quando sento dire ha un suono internazionale, per me è tristissimo, cioè è un'omologazione unica, cioè se abbiamo una possibilità è di dire io sono me stesso, quindi io sarò così, io sarò, che non è detto bello o brutto, non ha importanza, l'importante è dire ma abbiamo preso questo bassista perché ha un suono internazionale, quindi cosa vuol dire? Che tu che sei francese hai preso un bassista che suona come gli americani, allora cioè, esatto. Ecco, invece in questo caso era Nick Drake, nessuno ha cercato nulla, ecco. Fantastico. Ecco. Bene, sono le 22.54, caro Agostino. Il tempo corre, però non siamo ancora arrivati alla mezzanotte. Abbiamo ancora un'oretta. Però qui ci sono ancora tantissime canzoni. Ma faremo una seconda puntata, chiaramente. Ricordiamo i nostri numeri telefonici, perché magari qualcuno volesse sempre comunque mandare qualche sms a questi nostri ospiti. Allora vi ricordo in studio lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda gli sms il 346-2320-033. Questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino che parla pochissimo perché lui se le sta in regia ad ascoltare queste grandi notizie che ci vengono date da questi grandi ospiti, ma c'è Maurizio ovviamente che lui ci dà, ci riesce. No, ma io sono molto contento stasera perché sto imparando tante cose, è così importante. Tu che sei già un pozzo di conoscenza tua. Me la cavo, però sto imparando, certo, questo certo. È importante. Poi insegni anche a me poi. Ecco, sì, esattamente. Allora, Gianluca Merlin e Gianni Della Ciaupa, ospiti qui a Blu Radio Veneto in questo programma che si chiama Rock Wave, perché ormai tanto comunque l'abbiamo dedicato tutta la fascia serale a questo titolo, quindi Rock Wave con questi... come dire, professionisti del rock nel senso di conoscenza parlo ovviamente, insomma, non di musicista, insomma, sono veramente grandi, grandissimi. Allora, chi tocca? Sì, tocca a Gianluca. Gianluca, allora, possiamo definirli uno dei primi supergruppi, quella band che tu, sì, sì, tu citi? Certamente, perché nascevano dall'unione di vari artisti. Chi erano gli artisti di questa super band straordinaria? Innanzitutto c'era Stevie Marriott, che era transfuga dagli Small Faces. Poi Peter Frampton, che proveniva dagli Heard, un gruppo beat che mischiava influenze jazz, pop, eccetera, eccetera. Poi c'erano Greg Riddle e Jerry Shirley, che provenivano dagli Spooky Tooth, formazione inglese. Sfortunatissima, anche qui un altro grande gruppo di culto che non ha mai avuto grandissimo successo se non magari per qualche cover. E l'idea è venuta da Peter Frampton, che voleva realizzare un gruppo, era uscito dagli Heard e ha chiamato con 6 primi musicisti. Poi lui ha sempre detto una cosa: io ho sempre ammirato gli Small Faces, volevo entrare in quella formazione. In realtà con gli Heard aveva aperto alcuni concerti degli Small Faces. Un giorno, una notte anzi, lui sentì una telefonata e dall'altro capo del telefono c'era Stevie Marriott che gli ha detto: ho mollato gli Small Faces, posso entrare nel tuo gruppo? E lui si è trovato di quel punto in bianco tempismo nel 69 perfetto. In un tempismo incredibile è arrivato e Stevie Marriott ha portato quel in più che serviva alla band per poter veramente sfondare. Ciò nonostante, questa band almeno in Italia sempre è rimasta un po' sconosciuta, sì, non tanto, non conosciutissima, mentre in America e in Inghilterra andava moltissimo, cioè, soprattutto dei live. Sì, sì, sì, c'è un racconto straordinario che ho trovato su internet dove loro hanno suonato nel 71 proprio a Roma, al Palaeur, mi sembra. Teoricamente doveva esserci l'aria condizionata, ma in realtà non ci fu. Loro erano con i pantaloni lunghi, con la giacchetta, no? E ricorda, non mi ricordo se fosse Ernesto Assante, una, sì, lo spettatore, che alla fine Stevie Marriott rimase da solo sul palco barcollante con il Jack Daniels vuotato, e a un certo punto lui crollò per terra. Gli Rodi arrivarono, lo presero, non si sa cosa fecero dietro, però sicuramente gli devono aver dato qualcosa di tirar su. E lui ritornò, salutò tutti e se ne andò. Veramente erano un gruppo straordinario che dava il 210% sul palco. Stevie Marriott in quell'epoca, dagli Small Faces, che già aveva fatto vedere qualcosa, ma negli Humble Pie ha dato oltre, talmente tanto, che credo tutta quell'energia che ha riversato all'interno dei concerti degli Humble Pie lo ha letteralmente distrutto. Sì, poi perché... gli Small Faces probabilmente era un po' racchiuso, aveva bisogno di spazio. Sì, sì, perché lui, provenendo dalla musica rhythm and blues, appassionato di musica black, è riuscito ad estremizzare, certo, questo suono e a portarlo dal vivo con una carica impressionante che probabilmente solo i grandi rocker sono riusciti a fare. Un vero mostro da palcoscenico. Se qualcuno può guardare quei rari filmati che esistono, lui è veramente il frontman che riesce a sgolarsi talmente tanto da andare oltre. Sì, sì, sì, grande, sì, voce e grande chitarrista comunque anche. Purtroppo, come dicevo, una vita a 2000 all'ora e una fine terrificante, che nel 92-91 mi sembra, sì, è morto arso vivo nella sua casa ad Atkers, sì, nell'Essex, è tornato a casa. Questa cosa l'ha raccontata Ozzy Osbourne. Lui è tornato a casa ubriaco fradicio con la sigaretta accesa, si è addormentato sul letto e la sigaretta è andata giù, e avendo la casa al tetto di paglia, che nella legislazione inglese le case con tetto di paglia vengono spesso e volentieri, cioè i proprietari di queste case vengono avvertiti di non portare qualcosa di acceso all'interno della casa. Lo stesso Keith Richards, anche lui è stato miracolato da uno di questi incendi. Purtroppo tante volte è stato miracolato, anche con le palme, anche con le palme, anche con le palme è stato però miracolato. Veramente, esatto. Gli Humble Pie, lui parlava Gianni soprattutto dei soliti artisti di hard rock. Qui sono gli Humble Pie, sono un gruppo hard blues. Questa, certo, è la formazione, diciamo, più famosa, più nota, che si divideva tra Frampton, Greg Ridley e Stevie Marriott. Poi quando Frampton se ne andò per per i 25 milioni di copie di Frampton Cancer Live, sì, esatto, se ne andò per quello, ma anche più che altro per scontri con Stevie Marriott, che era una personalità debordante, certo, essendo anche un po', diciamo, all'epoca fuori di testa, un vero rocker di quelli che se alle 3 della mattina, sì, ti doveva chiamare, ti chiamava. Niente, se ne andò e chiamarono un altro segnal chitarrista che tra i più sottovalutati della storia del rock, che è Clem Clampson, chitarrista di Colosseum, altro gruppo progressivo, ne parlavamo prima, sì, esatto, grandissimo chitarrista. Nazareth. E poi c'è un altro disco straordinario che è Smoking, dove Marriott veramente va oltre ogni limite a livello di rock. Noi ci ascoltiamo un pezzo da Rock On, che è un disco del 71, forse quello che precede poi il grandissimo performance Rock in the Fillmore, dove ve lo consiglio, da assolutamente da comprare, uno dei più grandi live della storia del rock e non viene mai assolutamente citato. Un pezzo che magari in Italia non è conosciuto tanto, ma in America le cover band, chi inizia, parte con questo qua, Stone Cold Fever, sentite, esatto, il riff. Stone Cold Fever. Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Eh sì, Steve Marriott era un, più che essere violento, era un musicista straordinario, andava al di là di tutte le cose. Un grandissimo talento straordinario. Ahimè, perso anche un po' per colpa sua, per la sua vita dissoluta da rockstar, ma erano gli anni 70. Erano sì. Erano anni pazzi, anni dove... Vabbè, comunque sono cose che riguardano ancora oggi i musicisti professionisti. Una cosa che ne parliamo sempre con Gianni, che tanto quando si parlano di musicisti che crollano, finiscono sotto la droga, alcol e tante cose, tanti guardano sempre l'immagine, ma spesso non guardano quello che è l'artista dietro, quello che l'artista deve sobbarcarsi dal punto di vista musicale. In Italia abbiamo sempre questo mito che il musicista è un fannullone. In realtà il musicista si fa il vero mazzo. Sì. Cioè, a certi livelli un lavoro pazzesco. Fanno anche 40-50 date, stavamo guardando anche con delle band intervistate, per esempio, a proposito del metal, le date che faceva da qui a fine anno Doro Pesce. 35 date, ma non 35 date in Germania, Svezia, Russia, Lettonia, Repubblica Ceca, il che significa partire, fare la valigia, andare su con l'aereo, arrivare, riposarsi, fare soundcheck, interviste. Cioè è una vita che ti prende non 8 ore, ma te ne prendi 10-12. Beh, ma Neil Young cosa ha detto? Tu non mi paghi per il concerto, perché io mi diverto, tu mi paghi per i viaggi. Sì. Cioè, per dare l'idea, capisci che 20, 30, 40 anni fai questa vita qua, o la ami, oppure... Bisogna essere disposti a sacrifici, anche a livello familiare, attenzione. Io alcune volte, piccola parentesi, diciamo, ho creato un piccolo format dove un po' indirizzo i gruppi giovani su quelle che sono le problematiche, le difficoltà legate anche al mondo della SIA, al mondo del... pratico proprio, di dire ok, ho il gruppo, adesso che si fa? E io metto in guardia tutti, dico, perché la domanda iniziale è sempre: ma voi cosa aspettate? Tutti, ah, il mio sogno è vivere di musica. Benissimo, dico, perfetto, io ero già pronto perché lo sapevo, però attenzione che è difficile, è un sacrificio, quindi dimenticatevi, quando si suona ragazzi non è il lavoretto in ufficio che alle 5 il venerdì si è finito, si lavora di notte, di giorno si dorme. Oggi sei qui, domani sei lì, si torna in albergo, scalcinati. Delle volte il manager, perché dovete avere un manager, ti dice: guarda che dei 5 alberghi di questa settimana, 3 fanno schifo, ti devi arrangiare perché se no non ci stiamo dentro. Cioè è complicato, quindi mi aggancio al discorso di Gianluca. O dormi nei tourbus. Nei tourbus, chi se lo può permettere, si mangia dove si capita. Cioè attenzione, io dico, la vita dell'artista, ma questo magari succede anche per chi fa teatro, cioè non tutti sono delle star che... Elton John viene a Verona e pretende il vino toscano, non so se mi spiego, che noi in Veneto ci sono dei vini fantastici, però se lui dice io voglio il vino toscano, signor sì, arriva il vino toscano. Cioè tu vai, dormi dove capita, mangi quello che c'è e poi devi andare lì e fare 2 ore davanti a 10, a 100 o a 2 persone, però quelle 2 le devi far sentire come se fossero 1000 perché loro sono lì per te. E poi domani si riparte, quindi non è così semplice, quindi capisco che qualcuno non è in grado di reggere. C'è quello stupendo aneddoto che hai raccontato una volta quando ho intervistato Mick Box degli Uriah Heep. Sì. Dovresti ricordare che è una cosa molto carina. Questo per dire l'artista come fa ad andare avanti dopo 40 anni. Qual era? Perché ce ne sono 2 o 3 su Mick Box. Quella che ha intervistato a Venezia nel 92. Quello che gli ha chiesto: ma come fai dopo tanti anni ad andare avanti ancora e a suonare e a portare avanti gli Uriah Heep? E tu hai detto che lui ti ha risposto: ma sì, io ho visitato l'Europa, l'America, eccetera, eccetera. Però devo visitare ancora parte dell'Asia e l'Africa. Certo, c'è l'India ancora, detto, ce ne sono di pubblici ancora che non mi conoscono. Sì, sì. Quindi se uno ha questo obiettivo qui, allora va avanti. Può andare avanti senza nessun problema. Certo. Beato lui. Esattamente. Tocca a te adesso, Gianni. Ma allora adesso andiamo a ascoltarci un gruppo inglese. Si chiamano i Diamond Head. È un omaggio mio personale, un movimento artistico che si chiama New Wave of British Heavy Metal. Cioè, finito la spinta del punk, è nato il post-punk. Però c'era una parte di pubblico e di musicisti che non erano interessati a quello che aveva detto il punk, o perlomeno ne avevano subito relativamente l'influenza, o a quello che sarebbe venuto dopo. Quindi abbiamo visto alcuni gruppi, Sioux, Smith e compagnia. Erano legati all'hard rock, agli anni 70. E l'hanno riletto, diciamo, con le basi tecniche di quello che era l'hard rock di Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, UFO e tanti altri. e con, diciamo, la grinta e la voglia di emergere del punk. Chiaramente è nato un suono sempre tecnico ma più veloce, questo molto in sintesi, che la stampa inglese aveva battezzato New Wave of British Heavy Metal, quindi la nuova ondata dell'heavy metal britannico, dicendo è il ritorno delle criniere al vento, mi ricordo bene come l'aveva definito Kerrang inglese, perché i punk avevano i capelli corti, quindi è il ritorno delle criniere lunghe al vento. E da questo enorme calderone i gruppi che poi hanno lasciato veramente il segno non sono molti, ma fondamentali: gli Iron Maiden sono tutti, i Saxon, i Def Leppard inizialmente, anche se poi sono emigrati in America e sono diventati più un gruppo radiofonico. Il genere poi ha avuto anche il merito di ridare forza a tantissimi vecchi leoni, perché i Rainbow di Rich Blackmore, i Whitesnake di David Coverdale, i Gillan, cioè tutta questa, diciamo, stirpe legata un po' ai Deep Purple, e non solo, gli stessi Black Sabbath con l'ingresso di Ronnie James Dio, cioè si erano messi in discussione a dire: oh, ma qua ci sono i ragazzi che ci fanno le scarpe, quindi diamoci da fare. Il problema è che anche in questo movimento tantissimi gruppi non ce l'hanno fatta e avevano veramente qualità. Avrei potuto sceglierne tantissimi, c'è addirittura uno zoccolo duro di appassionati di questo genere che conosce proprio tutti i gruppetti che hanno fatto i singoli o solo le cassettine, i vecchi demo tape. Chissà quanti ne avrei trasmessi per radio, Maurizio, certo, in passato. Certo. Una volta c'erano le cassette, i demo tape. E i Diamond Head hanno vissuto, diciamo che adesso ci sono ancora, con una nuova formazione, c'è il leader che è chitarrista, Brian Tetler, e diciamo hanno avuto degli andate e ritorni, e hanno vissuto l'unico loro momento di gloria quando i Metallica hanno fatto alcune loro cover. Il gruppo in quel momento era sciolto, il gruppo dei Diamond Head era sciolto, e Metallica, già abbastanza famosi, hanno fatto dei singoli con un retro dei pezzi di altri, tra cui appunto la gente il pezzo oltretutto erano molto belli e si è chiesta chi sono, e loro ne hanno parlato. Sulla scia di questa, diciamo, emozione onda emotiva, il gruppo si è riformato, ha vissuto un paio di stagioni buone, poi insomma un po' per sfortuna, un po' perché non tutto funzionava a dovere, magari anche per le cose che abbiamo detto prima, perché non è così semplice, c'è il momento delle scelte, se non arriva denaro a sufficienza devi decidere suono o torno a lavorare. Ecco, resta il fatto che loro hanno fatto negli anni 80, mi voglio fermare lì, anche se poi hanno fatto cose buone anche dopo e anche attualmente, io li ho trovati interessanti, li ho visti anche dal vivo un paio di volte. Negli anni 80 hanno fatto dei dischi veramente fantastici, ma belli veramente, all'altezza dei colossi, magari non con quelle produzioni lì perché le case discografiche erano minori, ma quando sono passati su MCA hanno fatto, per dire, Canterbury, la parola che apre scenari e spettri di tutt'altro genere, però ci sono dei rimandi progressivi, hanno ripreso tanti, come dire, la tradizione britannica anche a livello di liriche, infatti in copertina c'è una dama di corte e un cavaliere seppur stilizzati, c'è un gruppo che erano stati definiti probabilmente con un po' di enfasi ma non così in modo esagerato, i nuovi Led Zeppelin, e alcuni richiami li avevano. Io ho voluto presentarli qui con un pezzo che è uno dei loro primi singoli. La bellezza di questo brano, che si intitola Diamond Lights, luci di diamante, riflessi di diamante, io vi invito magari ad ascoltarlo anche in quest'ottica qui. La registrazione si sente che non è di qualità, ma la sua bellezza è proprio quella, perché io colgo lo stupore che è irripetibile, no? Per quei gruppi che per la prima volta suonano insieme in una cantina e si accorgono che sta venendo fuori qualcosa di bello. E quindi la registrazione è lacunosa magari, però c'è proprio quella bellezza che sta nascendo qualche cosa di bello. E io sono felicissimo che quando poi li hanno ristampati su G non hanno rimasterizzato nulla. Hanno detto, eravamo così. Nell'80 noi eravamo così, quindi in contemporanea da Iron Maiden e tutti gli altri che abbiamo citato, loro erano così. Diamond Head, Diamond Head, Diamond Lights. Looks bad. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, posso dirti Gianni, non li conoscevo assolutamente, ma adesso mi sono pentito di non averli conosciuti, erano veramente tosti, tosti nel senso positivo del termine. Sì, amavano molto la melodia. Esatto, c'era un po' di melodia. Sì, sì, sì. Ecco, questo è uno dei loro pezzi un po' più grezzi degli inizi. Comunque suggerisco a chi vuole magari conoscerli così per introduzione, Canterbury, di cui parlavamo prima, molto più melodico, molto più raffinato, anche dove il cantante Sean Harris esprime il meglio. Anche Borrowed Time, comunque. Sì, disco precedente, sì, sì. Non è male. Benissimo, adesso sentiamo. C'è un po' di melodia in questo. Tantissima. Questo band che tu hai scelto. Una band non molto conosciuta in Italia, ma moltissimo conosciuta in Germania, per esempio. Germania, sì, Germania, sicuramente. Una band ancora di culto. Carriera straordinaria. Esattamente. Che non so se continua ancora ai giorni nostri. Io penso di sì. Con formazione un po' diversa. Qualcuno forse è morto, qualcun altro ha mollato. E insomma, comunque loro sono rimasti legati moltissimo al periodo degli anni 70, che è stato il loro grandissimo periodo. Stiamo parlando di Barclay James Harvest. Esattamente. Gruppo progressive sinfonico. Sì, possiamo sì, dire sì, possiamo dirlo, sì, circuito sì, pomposo, molto pomposo. La stampa diceva che erano i cugini poveri di Moody Blues. Loro ci hanno fatto anche un pezzo, pur mezzo Moody Blues. È vero questo. Io ho scelto un album, Once Again, del 71, che è del primo periodo Polydor, il loro periodo più, diciamo, bello, più bello secondo me. Sì, sì, poi loro si sono andati verso più lì di più rock, diciamo, con più sintetizzatore, orchestra non c'era più. Un disco stupendo, secondo me. Non voglio dire il primo, che magari è molto più bello, però ci sono dei pezzi veramente che hanno emozionato. In particolar modo mi voglio riallacciare alle interviste con gli emergenti. Questo pezzo ha emozionato gli ascoltatori, ma anche i musicisti che erano ospiti quella sera, in particolar modo il cantante di Metodica, che conosciamo tutti. Certo. Che mi ha detto proprio Massimo, in questo pezzo, Massimo, ma grande Max, che salutiamo. Ciao Max. Che mi ha detto: caspita, ha detto, ma sembra un pezzo non degli anni 70, sembra un pezzo degli anni 80. Perché c'erano queste atmosfere, questi riverberi nel pianoforte e soprattutto la chitarra che lavora sopra. Straordinari. Avevano una grande capacità di mettere insieme la melodia, la sinfonia. È un gruppo progressivo che va riscoperto, anche perché la famosa etichetta Harvest, quella dell'EMI, pare abbia preso da loro. Si dicono di sì, dicono pare, come tu giustamente hai detto. Mi sono sbagliato, questo disco è sotto Harvest. Sì, e poi Harvest. Sono andati verso la Polydor. La Polydor, sì. Ecco. Straordinario che nella copertina, questa si apriva e c'era dicendo la farfalla. Non dimentichiamoci le copertine. Che sono molto importanti all'epoca. Del progresso. Io ricordo le copertine di Roger Dean che avevano fatto storia. Quella di Emerson, Lake & Palmer, di Giger, quella di Brent Salsberger, sì, che si apriva tantina. Gianni ne ha parecchi, ne ha mostrato una volta quella di Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends, che si apriva con l'immagine di Bellissima, bellissima, una chicca quella. Per quanto riguarda Roger Dean, sì, che ha fatto l'ultimo disco degli Yes, bravissimo, era per dirti per quanto è importante gli Yes. Diciamo che adesso sono con un nuovo cantante, sì, non c'è più John Anderson. Cosa hanno fatto per dare un segno di continuità col passato? Hanno ripreso Roger Dean a fare le copertine, hai visto? È vero. Per dirti l'importanza, appunto, anche solo dell'immagine. Ecco, una cosa che i CD hanno un po' cancellato, non parliamo degli MP3 e compagnia, cioè il tocco, la copertina, l'immagine, è un pezzo d'arte alla fine, certo, no? Certo. No, una piccola opera anche la copertina. Certo, certo, sono perfettamente d'accordo. E anche le copertine di Moody Blues erano dei pezzi d'arte. Assolutamente. Sì. Erano bellissime anche quelli. Piene di richiami. Addirittura nel progresso sono nati i primi picture disc del rock. I Saturnalia avevano fatto un disco vinile che aveva all'interno delle carte di tarocchi, mi sembra una cosa del genere, e che se messo nel piatto dava addirittura degli effetti psichedelici. Erano le prime sperimentazioni grafiche. Il logo della Vertigo è vero. È nato anche con quello. Ma molti anni fa, molti anni prima, anche i Rocks avevano fatto un singolo, un 45 giri, che profumava quella all'epoca. Pensate quindi, che... Quindi non è... Cioè una, la creatività... Non ha confini, esattamente. Allora, il pezzo che abbiamo scelto si chiama Song for the Dying ed è un pezzo assolutamente commovente. Lo ascoltiamo. Two of them watched in the dawn's early light, and two of them died in the morning. Search not your soul if you want to be right. But two of them died in the morning. It's not for you we cry. others who are gone. Two and by two in the dawn's early light, all went to die in the morning. Search not your souls for the truth and the right, for all went to die in the morning light. It's not for you we cry, no, not for those who die. The lives of others who are gone. Forget the lives of others who are gone. Forget the lives of others who are gone. It's not for you we cry. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. È bellissimo questo pezzo. Ma gli album dei Barclay, dobbiamo riscoprirli, ragazzi, perché sono delle cose molto, molto belle. Qualche flash veramente notevole. Sì, sì, ma questi sono appunto dei segnali, no? Gettati lì, sperando che vengano in qualche modo recepiti. Perché bisogna dare delle alternative, Maurizio, cioè. C'è troppa omologazione, cioè si parla sempre dei soliti gruppi, anche all'interno del rock sembra che quei 10 nomi che hanno fatto la storia e che sono la spina dorsale, a cui riconosciamo infinitamente rispetto e magia per quello che ci hanno regalato, però ci sono tante altre cose. Racchiudere insomma 40-50 anni di rock nei soliti 10 nomi mi sembra un po' poco, ma ho l'impressione che invece per molti sia così, capisci? E allora ben vengono programmi come questo, insomma. Certo, speriamo di farne altri, adesso vediamo. Grazie. Vero Agostino? Sempre disponibile. Sempre disponibile. Grazie Agostino. Figurati, quando c'è la possibilità di dare emozioni, noi come emittente radiofonica cerchiamo sempre di darle. E come ho sempre detto, meglio diciamo i semi conosciuti che i VIP, perché danno più emozione, insomma. Perché noi facciamo la radio come una volta, secondo me, per quello ci divertiamo. Ma io penso che sia proprio così, perché ci siamo portati i dischi da casa. Eh certo, come si portavano così. Una volta si facevano il conduttore radiofonico una volta faceva così, esatto, si fa partiva così. Con la sportina da casa con i suoi dischi, solo che adesso sono i CD, sono piccoli. Certo, una volta avevamo le borse, borse pesanti. E i conduttori di Stereonote lo fanno ancora, beh, di loro lo fanno ancora. I CD non sono dell'archivio Rai, sono loro personali, perché c'è una scelta assolutamente imprescindibile. È un segnale, questo è un segnale piccolo ma grande allo stesso tempo. Certo, sono d'accordo con te, assolutamente. Che scelta hai tu adesso, Gianni? Ah, tocca a te, sì. Giusto, ci guardavamo, sì, tocca a me. E, guarda, io ho scelto i Living Color. Ah, i Living Color. Per due motivi semplici. Sono un gruppo di musicisti di colore e hanno rappresentato quel momento magico a fine anni 80, primi anni 90, dove si parlava tanto del grunge. Ne parlavamo prima, certo, sì. Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, My Sister Machine, tantissimi altri nomi, però c'era anche il versante del crossover, no? Questo suono che univa funky, rock, punk, metal chiaramente, metal. Hard rock, ma anche blues, psichedelia, tantissime cose, insomma, che ha veramente generato gruppi fantastici. Oltretutto io in quel momento mi sono trovato a combattere, perché da sostenitore e amante del metal, molti invece di appassionati di questo genere vedevano in questo suono nascente la rovina del heavy metal, no? E dell'hard rock. Il genere sta cancellando tutto, i nostri gruppi preferiti scompariranno. Non è successo assolutamente così. Il metal ha continuato il suo percorso come sempre. E ancora continua. E continua, è uno zoccolo duro, si rinnova, alti e bassi come sempre, gruppi che copiano, altri che fanno, ma non è questo il punto. Ma il crossover ha dato una ventata di freschezza incredibile. Cioè, Red Hot Chili Peppers, James Addiction. Hai sentito il nuovo Red Hot Chili Peppers? Ancora no, diciamo che per me da qualche anno, insomma, che sono bravini, fanno le loro cose, però magari l'ultimo mi smentisce, ma mi sembra, insomma, che quello che veramente di grande dovevano dire hanno già fatto. A differenza dei Living Color, che si sono sciolti e si sono riformati un paio d'anni fa, però non hanno fatto passare 20 anni dal loro scioglimento, e i loro dischi di studio, anche se non vendono più come una volta, sono molto creativi. E loro poi orgogliosamente di colore rivendicavano le radici del rock nei musicisti di colore, certo. Quindi il blues, gli spirituals, Jimi Hendrix, ecco, tanto che avevano fermato la Black Rock Coalition, dove dicevano la coalizione cercavano gruppi appunto che fossero tutti di musicisti di colore. Ma al di là di questo, che poi la cosa non ha funzionato se vogliamo dirla fino in fondo, restano i loro dischi che sono fantastici. La cosa bella è che hanno anche venduto, sì. Gli è andata anche bene, sì. Hanno avuto stagioni buone, curiosamente il cantante era stato anche attore in un film, se non ricordo male, nel film di Oliver Stone sul Vietnam, cos'era? Platoon. Era stato, ecco, prima ancora di diventare famoso come cantante aveva fatto l'attore in quel film, però questo insomma è un gossip, è una curiosità. Sono stati un gruppo geniale, innovativo, che hanno fotografato un momento veramente di crescita della musica rock, secondo me. E il tempo ha detto che le cose sono state così, quindi i detrattori sono dovuti fare da parte, perché è stato un momento pieno di vitalità. Ok, benissimo. Ecco, noi ce li ascoltiamo con uno dei loro brani, insomma, anche più noti. Living Color con Type. The time when the lies will be Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ancora circa una ventina di minuti in vostra compagnia, nel senso della musica rock ovviamente, ma in compagnia di Gianluca e di Gianni, che sono venuti a trovarci qui per parlarci del rock. Vi rubo qualche secondo per farvi una domanda che ve la chiede un ascoltatore, Alberto, e chiede: ma perché, parlando di metal e di hard rock, non parlate anche di Malmsteen? Bella domanda. Io sinceramente purtroppo non è in scaletta. Si parlava prima del discorso chitarristi tecnici, se piacciono, se non piacciono. Qui ci sono varie, come dire, scuole correnti di pensiero. No? Noi parlavamo sempre, no, di questo discorso dei ragazzi giovani di adesso, che quando vogliono imparare a suonare uno strumento vogliono subito diventare dei chitarristi stile Malmsteen, stile Satriani, vai, no? Perché vedono questi grandissimi chitarristi, bravissimi per carità, tecnicissimi, straordinari. E lì bisogna vedere se ti piace la musica tecnica o l'emozione. Sono due cose diverse. E quindi che tipo di chitarrista, tanto per fare un'idea? Beh, un chitarrista straordinario, voglio dire, basta che vi andate a sentire Rising Force, che è il primo disco che è tecnico, è fatto da penso una drum machine con la sua Stratocaster. È un chitarrista da vedere, perché comunque sia ti fa delle cose straordinarie unite dalla musica metal classica, fa delle cose pazzesche, tapping, ha una tecnica incredibile. Certo. Poi ama le Ferrari. Ecco. Comunque allora diciamo che il nostro ascoltatore, possiamo dire che la sua richiesta è assolutamente legittima e che magari in una successiva occasione che ci troveremo, vero Maurizio? Sì, un'altra puntata, faremo un'altra puntata. E può essere un'idea, diciamo che come non c'è Malmsteen, ne mancano tantissimi altri migliaia di nomi che sarebbero interessanti. Per quanto riguarda un'osservazione che possiamo fare sul musicista, concordo con l'ascoltatore. E Malmsteen innanzitutto è svedese, quindi dimostra che l'egemonia anglo-americana negli anni 80 è stata anche in qualche modo messa da parte. ha rivoluzionato. Secondo me, dopo Eddie Van Halen, è il chitarrista che ha in qualche modo rivoluzionato tutto. Si potrebbe parlare poi dei chitarristi jazz, di quelli ai confini con il rock, però nell'heavy metal sicuramente è quello che ha aperto nuove prospettive. Però è un musicista, attenzione, che viene dalla musica classica, quindi ci sono tanti studi dietro, quindi quando si parla vorrei suonare come Malmsteen, mi piace come suona Malmsteen, ma c'è dietro tanto studio. Quindi lui era un ragazzo che a 12 anni si ascoltava Vivaldi, Mozart, Beethoven, cioè non è che è partito solamente con i gruppetti rock, gli ha avuto intuizione di applicarli alle heavy metal, quindi suonare quasi la chitarra a mo' di violino in qualche modo, con le stesse dinamiche. Io lo apprezzo molto, devo dire che secondo me riesce meglio come chitarrista tecnico che come compositore. Ha fatto tantissimi dischi. Ha avuto tantissimi cantanti. Tantissimi, sì, ma è molto egocentrico, litigioso, quindi questo dipende dal suo carattere, non per una ricerca di un qualche cosa di diverso. C'è un'affinità con i veronesi Artemis, dato che il nostro amico Marto Angeli lo conosce benissimo. Certo. E gli Artemis hanno fatto anche un tour con Malmsteen, con la band, il cantante. Dougie White ha fatto i complimenti agli Artemis. Certo, sì. Non so se mi spiego. Certo, e comunque un chitarrista bravissimo, che probabilmente se avesse canalizzato un po' più le sue energie verso la scrittura dei brani che verso la ricerca dell'estro, magari avrebbe ottenuto qualche considerazione in più. Così è considerato un grande chitarrista, meno come compositore. Infatti qui parlava di che ha fatto un trilogy, si chiama trilogy con l'inserimento dell'Adagio di Albinoni. Sì. No, ma ha fatto proprio dei dischi dedicati alle riletture di musica classica, quindi questo anche con l'orchestra sinfonica ha fatto dei dischi. No, ma è uno che ha idee, è bravo, ecco. Però magari come compositore non sempre. Alberto, riesce allora a dare ti diamo meglio. Appuntamento alla prossima puntata, che magari così Gianni e Gianluca si portano qualcosa, così ti fanno ascoltare anche Malmsteen. Adesso abbiamo. Cosa posso dire di questo disco? Io ho sempre amato questo gruppo e lo amerò sempre. Sì, non è sconosciuto, però tanti non sanno quanto ha dato alla musica rock. Quanto ha dato, esattamente. Perché i Birds sono stati anticipatori prima di tutto del folk rock, poi della psichedelia, certo, e poi addirittura del country rock. Esatto. Io ho scelto Younger Than Yesterday, che è un po' il disco centrale della carriera dei Birds, perché è il disco di passaggio dal folk rock alla psichedelia, dove la band ha cominciato a sperimentare i primi effetti da studio. All'epoca effetti da studio non è come oggi, no, Pro Tools e via. All'epoca significava partire e sperimentare, anche semplicemente uno sbalzare il canale da una parte all'altra era sperimentare, un filtrare un suono attraverso un oscilloscopio era un altro sperimentare. E queste sperimentazioni artigianali sono ancora oggi talmente affascinanti che tanti dicono: ma come facevano a fare queste cose con gli strumenti che avevano, con i quattro piste, con gli otto piste? E sembrano più belli a volte di certe cose che si fanno oggi, quando si incollano gli arrangiamenti, le voci, no? All'epoca significava, e questa è una cosa che le band di oggi dovrebbero imparare, farci il mazzo, cioè lavorarci sopra un pezzo, quindi se sbagliavi dovevi ripartire. Certo, e tu hai scelto un pezzo di Chris Hillman, il cosiddetto Birds minore, anche se non era vero, no, però era considerato un bravissimo Birds artista, certo. Ha suonato con Grand Parsons, se l'è portato nei Flying Burrito Brothers, poi ha fatto con Stephen Stills e i Manassas, artista solista ancora bravissimo, ha suonato nella Desert Rose Band, ha scoperto un grandissimo chitarrista come John Jorgensen, l'ho visto dal vivo, chitarrista fantastico. Il pezzo si chiama Have You Seen Her Face, non sarà proprio più psichedelico, però si comincia a sentire questa psichedelia che comincia ad avanzare. Questo David Crosby che avanza. Esatto. Okay. Have You Seen Her Face. Have you seen her face? Her eyes reflect the colors in the sky. A more familiar place to be swept into whenever she's close by. Makes me wonder why. Run by, don't turn back. Can't hide from that look in her eye. Must be the way she walks, a style made up to capture all she needs. No time spent on loose talk. If your luck runs right, she might see you tonight. Everything in sight. Run by, don't turn. don't turn back. Can't hide from that look in her eyes. You'll find you're locked in her spell. All the sights and sounds your senses will be found. And only time will tell how much love can be. Wait so patiently, wait and see. Run by, don't turn back. Can't hide from that look in her eyes. Rockwave, l'onda del rock. Eh sì, sì, ci siamo quasi, però non dovevamo non esserci prima di aver sentito i Birds. I Birds sono immortali, secondo me, è un gruppo che ho sempre amato e continuerò sempre a amare, al di là di tutte le giuste cose che hanno influenzato la hanno influenzato tutti in maniera incredibile. I Birds sono i Birds, c'è poco da fare. Esatto. Io ricordo sempre Turn Turn Turn, basta quello per me, che era un pezzo, non loro, era un pezzo di un altro, molto più famoso di loro. No, in realtà era tratto dalla Bibbia. Sì, ma era un pezzo di Pete Seeger, poi l'aveva rimetto anche lo, rifatto anche da John Baez. Ma rifatto da loro, è una cosa meravigliosa, lo sento. Quando lo risento lo sento ancora volentieri. Tra parentesi, avrò l'occasione, uno di pochi di fortunati che i biglietti sono finiti, di andare a vedere Crosby & Nash a Padova fra qualche mese. Ah, però il 29 ottobre, non so. David Crosby è per me un mito assoluto. Assoluto. Ok, certo. Non sei da solo, eh? No, ci sarà un altro, sei qui vicino. È anche il nostro direttore artistico. Il trio di una certa età, andremo a vedere loro. Grandi emozioni sono quelle. Esattamente. Ma vedrai che troverai tanti giovani. Sì, penso di sì, esattamente. Anche tanti giovani. Sì. Ok, tocca a te, mi pare, Gianni. Sì, esattamente. Sì, allora la proposta che segue adesso merita due parole. Dai. Innanzitutto è una donna, mancava diciamo nella mia lista, ma è una scelta voluta e non assolutamente forzata. Una è la dimostrazione che l'immagine che è stata data della donna negli ultimi anni del rock, assolutamente legata solo all'immagine, non è quella vera. Le donne nel rock inizialmente possono aver giocato un po' sulle loro immagini, in realtà hanno portato anche delle idee, anche secondo me un sentimento e una sensibilità diversa, no? Cioè, quindi lo stesso genere, secondo me, fatto da una prospettiva femminile può prendere delle nuove idee, delle nuove soluzioni. Ma penso alle Hell 7, queste famose Riot Girls, no? Che tutte venivano inserite nel grunge, così, poi in realtà non avevano tante affinità. Comunque un gruppo pieno di energia, ma ce ne sono tantissime. E anche recentemente si forza anche un po' la mano nel cercarle. Siccome non abbiamo messo nessun gruppo legato al grunge, io ho voluto dimostrare che una musicista, un artista, non c'entra che sia donna, considerata marginale, poi in realtà se ha la possibilità di esprimersi, quindi di crescere, di trovare una propria identità. E questo varrebbe per tutti, no? Perché oggi si cerca tutto al primo disco, non funziona, via, scompari. Stiamo parlando di Melissa Auf der Maur, che noi la ricordiamo come una bassista, sembrava un marginale, no? Special Pumpkins, poi The Hole. Vittima dell'arpia di Courtney Love, esatto. Sembrava... E invece in realtà, in proprio, ha dimostrato una creatività incredibile. Il suo primo disco... una cosa normale, si è messa da parte, è stata fuori un po' dal giro e adesso è uscita con un nuovo album, Out of Our Minds. Credetemi, ci è collegato un film, un fumetto, tutto fatto da lei, e degli scritti, dei testi e l'album musicale. Io sono andato a vederla dal vivo e mi ha veramente sorpreso. In un'ora e mezza ha fatto le sue canzoni, ha fatto due cover fantastiche di Black Sabbath e The Type O Negative, che magari ascolteremo in un'altra occasione, filmati dietro, un misto di rock, elettronica, insomma un po' suoni cupi, gotici, così, questa sua vocalità squillante, pochissima immagine sua, quindi non ha forzato la mano sul suo essere comunque affascinante. È un disco creativo e quindi ho voluto dimostrare che si può essere veramente grandi artisti anche e guardare in avanti, perché lei questo lo fa anche oggi, perché noi spesso si dice ma una volta, io invece sono convinto che ci sono cose interessanti anche al giorno d'oggi. E questa d'oggi è una dimostrazione. E la difficoltà è solo andarle a trovare, perché c'è una gran confusione e quindi noi siamo anche qui un po' per indirizzarti. Perfetto. Il pezzo che andiamo a ascoltare è quello che intitola l'album, quindi Melissa of the Maur con Out of Our Minds. Ok. We'll be right back. Rock Wave, l'onda del rock. Siamo quasi alla fine, non è ancora la fine, ma siamo agli sgoccioli. Beh, pezzo questo qua era molto innovativo, ma riservava delle cose di una volta, rimesse a posto, rivedute, certo, corrette da lei. Ma lei ce l'ha questa cosa nel DNA. Anche un lavoro sulle ritmiche, insomma, particolare, sì. Esattamente. Molto Gianluca, 10 secondi per dirti che l'Alberto, ti, oltre a Gianni che gliel'ho già detto, dice: ascolterò sempre, sono d'accordo su quello che hanno detto, complimenti su Malmsteen. Grazie, grazie. Grazie Alberto. Benissimo, adesso citeremo un altro pezzo storico. Stiamo tornando sempre negli anni 60. Facciamo un discorso incrociato io e Gianni. Un storico pezzo degli anni 60, possiamo dirlo musicalmente sì, parlando. Sì, ecco, ho scelto proprio un classico degli Yardbirds per mille motivi. In primo perché gli Yardbirds vengono citati sicuramente dagli appassionati di beat, ma per l'epoca erano un gruppo assolutamente avanti, perché avevano un suono originale e particolare. Poi perché? Negli Yardbirds sono transitati Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Sì, grandissimi. Possiamo andare a casa. E possiamo andare a casa. Hai detto tutto. E in particolar modo, qui c'è Jeff Beck, che ha portato quella ventata di novità già all'epoca negli Yardbirds. Prima c'era Eric Clapton, quindi più ortodosso, più dedicato al blues. Arriva Jeff Beck e la band cambia completamente. Suoni nuovi, il rhythm and blues è reinventato con quel loro suono che viene chiamato the rave up, cioè quello accelerare al massimo alla fine per mandare il pubblico che all'epoca ballava in delirio. Questo l'ha proprio detto Giorgio Comeschi, che è stato il loro manager e scopritore. Grande Giorgio Comeschi. E proprio dal disco Having a Rave Up abbiamo un classico che secondo me è la primigenia dell'hard rock. È un pezzo che è stato coverizzato da Aerosmith, dagli stessi delle Zeppelin, e poi sulle ceneri degli Yardbirds sono nati. E il primo pezzo che hanno eseguito durante la sala prova di Londra è stato proprio The Train Keeps Rolling. Noi lo ascoltiamo perché è veramente l'inizio della tecnica chitarristica. Jeff Beck e Chris Drea che si divertono a fare il treno. È solo un piccolo aneddoto: 1966, Festival di Sanremo. Gli Yardbirds vengono in Italia e cantano due grazie pezzi. Grazie al manager Giorgio Comeschi, esatto, che è vissuto in Italia. Boom, con Lucio Dalla. Questa volta con Bobby Solo. Quando cantano questa volta con Bobby Solo sono ubriachi, fradici, quindi vengono eliminati assolutamente. Però la mattina prima erano andati in albergo, avevano fatto un successo strepitoso, facendo un happening dentro l'albergo. Ma loro hanno fatto anche il dopo festival, che Paolo Adam ha raccontato che Jeff Beck è andato al dopo festival e ha fatto il suo Jeff's Boogie facendo una scala sugli armonici che per l'epoca era una roba. Ed era la formazione originale, erano ubriachi, fradici. Ma loro l'avranno preso come un giretto. Esatto. E poi è molto meglio la versione inglese di Puff Boom che non questa volta, che vi è scicata in italiano. E poi Bon Mike ha presentato Galinacci, come i Galinacci. Vai. Allora, cosa ci fai ascoltare? The Train Keeps Rolling. I'm good that I couldn't let it go. Get along, sweet little woman, get along. Oh, grab on the drink and the roll. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Abbiamo finito. Peccato. Immaginavo che dicevi. Sono triste. Quando si sta bene in compagnia il tempo passa velocissimo. Molto veloce. Allora, Blu Radio Veneto, innanzitutto vi ringrazio. Vi ringrazio grazie di a voi. Essere venuti grazie da quel... Nella quella lontana provincia di Mantova, giusto? No, provincia di Verona. Però io mi sbaglio sempre. Gianni addirittura vive vicino a Verona, in un paese ecco, non tanto distante. Quindi sono un po' di chilometri. Ma sono nato a Padova. Ah, ecco. Vedi. Da non crederci, ma è così. Ti sei trasferito lì. Sì, sì, per motivi di lavoro del papale. Certo. Allora, prima di salutarci con l'ultima canzone, che se non sbaglio toccherà a te Gianni, sì. Ti saluto. Io vi do l'appuntamento a mercoledì, sempre insieme al mio fedele compagno. Sì, sì. Sì, abbiamo in soluzione, presenteranno il nuovo album diretta qua da noi. Loro sono di Mestre, però abitano a Roma adesso. Però hanno fatto una settimana a Padova e quindi sono presenti. Mercoledì saranno qui. E poi avremo anche giovedì che faremo tutt'altra musica, sarà la volta del soul, anche lì, però quella volta lì sarà in diretta con un cantante, con una cantante e un chitarrista. Io vi auguro un buon proseguimento all'ascolto dei programmi, lascio la parola a Maurizio e poi agli altri due ospiti per salutarvi, quindi l'appuntamento con me è per mercoledì e grazie della vostra partecipazione. Sì, prima di salutarti ti facciamo gli auguri di buon compleanno, visto che è il tuo compleanno oggi. Grazie Maurizio. Tanti auguri, happy grazie. Birthday. E grazie. Salutiamo i nostri ascoltatori con la presentazione, l'ultima presentazione, grazie a Gianluca, di Gianni. Cosa ci presenti Gianni per concludere in bellezza queste tre ore meravigliose? Tanto volevo ringraziare voi, veramente, la radio e il pubblico. E non abbiamo molto tempo, io posso dire che ho una venerazione per questo artista, un diminutivo, è un genio. Penso che l'obiettivo di questo programma era ampliare la mente, quindi abbiamo parlato tanto di rock, io voglio darvi la buonanotte con Ennio Morricone, nuovo cinema paradiso. Ok, ciao Gianluca, ciao Gianni, ciao Agostino. E ringraziamo anche la Martina che Certo, anche la Martina, Martina grazie che ci ha dato una mano, anzi a me ha dato una mano grandissima perché passava sempre i dischi, vi dicevo le tracce e tutto. Grandissimo. Ciao Martina, grazie di essere venuta. Ci sono te. Anche domani, Tu? Sì, con Sergio. Ah, vabbè. Ci vediamo, ci sentiamo domani alle 21. Ok. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.